Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di questo, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ti prometto ufficialmente che con l'inizio del nuovo anno si chiuderà questo siparietto terrificante, questa tragicommedia del tuo canto di chi co. Faccio un annuncio: Parenzo non canterà più. Va bene, abbiamo sentito un Calderoli in grande forma oggi al Senato, se non sbaglio, oggi al Senato. A proposito della battuta di Bonanni, questa manovra l'avrebbe fatta anche mio zio, ha detto bastava Fantozzi lo zio di Bonanni. Abbiamo un Calderoli in linea con il segretario della CISL. Sentiamo Calderoli, che non è così frequente che parli in Senato. C'è tanta fantasia, aumentare la benzina, i tabacchi. Io mi chiedo quando arriverà la tassa sull'aria, ma veramente il ragionier Monti, quella manovra lì la poteva scrivere meglio il ragionier Fantozzi piuttosto che lei, o lo zio dell'amico Buonanni. E noi di questa intesa anche sul tema delle pensioni tra Bonanni della CIS e della Lega sapevamo già qualcosa. Vabbè, non diciamo niente, va. I conflitti di interessi, se prendiamo Berlusconi, questi qui sono, ci sono conflitti di interessi molto più grandi. Berlusconi era un'educanda, sempre by Calderoli. Cos'è se non una marchetta a vantaggio delle banche? E poi si viene a dire, o si veniva a dire, del conflitto di interesse di Berlusconi. Ma Berlusconi, rispetto al vostro di conflitto di interesse, è un'educanda delle suore orsoline, caro presidente Monti. Lotta come un leone Calderoli. Beh, insomma, diciamo la verità, insieme all'Italia dei Valori, che però ha una seconda faccia, più perché ha votato la fiducia al governo Monti, questo si oppone alla manovra economica. Insomma, la Lega è l'unica opposizione che c'è in Italia in questo momento. Caro Monti, si ritiri o la vengono a prendere a casa? Adesso forse questo è un tantinello esagerato. Sempre Calderoli. Caro presidente Monti, si ritiri, si presenti alle urne se vuole. Io credo che non si presenterà mai, perché la via è quella di voler fare il presidente della Repubblica. Altri ambiscono a fare il candidato presidente. Dia le dimissioni, torniamo al voto, torniamo a votare, perché diversamente ci sarà tanta gente, gli operai, i pensionati, i liberi professionisti, i piccoli imprenditori, che la verranno a prendere a casa. Grazie. E così si concludeva l'intervento di Calderoli. Abbiamo ancora qualcosa da offrirvi prima dell'ospite che abbiamo qui in studio a Milano. C'è una riconciliazione, questa è la parte pop della politica che resta sempre, perché il Parlamento è la parte pop della politica. C'è una riconciliazione, sembra quella tra il signor Scilipoti e la signora Concia. Sembra che ci sia stata una riconciliazione. Solo qualche giorno fa, qui ai nostri microfoni, Paola Concia definiva Scilipoti un poveraccio dopo le vicende che riguardano gli omosessuali. C'è stato un mazzo di fiori. Le ha fatto recapitare dei fiori? Ma dei fiori, c'era stato un malinteso che non era un malinteso voluto da parte mia. E l'unica cosa che secondo me poteva essere anche un gesto affettuoso non nei confronti soltanto della Concia ma di tutte le donne italiane è quella di regalare dei fiori. Che fiori le ha mandato? Dei fiori normalmente che si mandano in queste occasioni. Senta, ha ricevuto una risposta? Ma non ha importanza la risposta, è quello che tu senti. Ho sentito di fare questo e l'ho fatto. Non si fa mai. La Fornero, infine, la Fornero: sono sorda, cieca e muta, e cita Popper. In realtà non è affatto muta, perché parla e parla un sacco, però di fronte, prima di entrare ieri all'incontro con alcune categorie, in particolare con i giornalisti, dice: sono sorda, cieca e muta, e cita Popper. Ma a me non mi sembra che sia così. Comunque, I'm blind, deaf and stupid, so please go away. Questo è quello, io non posso neanche lontanamente citare Karl Popper senza sentirmi assolutamente inadeguata, però un richiamo a una tregua adesso fotografica lo farei. Non mi aspettavo questo e devo dire con molta franchezza che se l'avessi intuito probabilmente non sarei stata così sollecita nel rispondere affermativamente. Bene, avete sentito anche una citazione di Popper da parte della Fornero. Altro clima, 800 24 00 24. Matteo Salvini, buonasera, europarlamentare della Lega. Buonasera, oh, è caduto Parenzo. Rimaniamo in due, meglio in due. Canto io chi se volete. Non avevamo dubbi sul fatto che sarebbe caduta la linea. D'altra parte è una caratteristica della zanzara. Io voglio subito sapere da lei una cosa: ma è roba da matti toccare l'articolo 18, come dice oggi Bersani? No, anche se non ritengo che sia una priorità. Dunque è roba da matti. Si può dire, ha ragione Bersani, no, toccarlo adesso è una follia. Come si può? Sì, mettere in cima i provvedimenti del governo l'articolo 18 è una roba da folli. È una roba da folli, sì, dunque sì. In questo caso ha ragione Bersani. Ma non è assurdo dirlo, cioè tanto voi ormai non avete a più. A volte ha ragione persino Pisapia, quindi figurarsi. Ormai siete da soli, insomma, per cui non c'è problema. In un momento di casino, creare ulteriore casino non mi sembra sia utile. È tornato Parenzo intanto. Peccato. Certo che è tornato, sono qui tra l'altro con l'ottimo Gino, il tassista Gino, sì, che è uno dei più grandi sostenitori peraltro del defunto leader della Corea del Nord, no? Ma perché? Oh, no. Perché dovrebbe essere sostenitore del leader della Corea del Nord? Probabilmente perché magari sa chi è. Vabbè. Ne ha sentito parlare. Sì, non credo che sia sostenitore del defunto leader della Corea del Nord, no? A dire il vero no. Le sta simpatico, no, da tassista romano, le sta simpatico il signor Salvini, Matteo Salvini della Lega Nord, oppure... Beh, oddio, non è che abbracci la mia idea, però insomma, sinceramente lo rispetto, ecco. Lo rispetta. Guardi, è qualcosa. Signor Salvini ha diversi estimatori nel centro-sud, più di quanto uno. Il taxi che ho preso stamattina a Roma invece è un padano romano. Ma lei, Salvini, quando va a Roma o più a sud ci va raramente? Per lavoro capita. Però raramente ci va. Raramente, più spesso vado in Valtellina, però se devo andarci per lavoro. Ecco, che sensazione ha quando varca Roma e va verso il sud? Una sensazione un po' di... Ci vado in aereo, non è che ci siano gli steccati. È più guardingo. No, quando vado aspetto di andare in Salento, ci sono un sacco di amici salentini che mi hanno invitato, non vedo l'ora di andare in Salento. Perché c'è la questione del Salento indipendente. No, perché mi attira la musica, il vino, il cibo. Non ho paura che ogni tanto qualcuno si avvicina e gli dà due schiaffoni così, No. Magari a Napoli, magari col bavero alzato. Ma ci va ogni tanto a Napoli? È stato una volta nella vita. Ma coperto? No, insomma, adesso va bene tutto, c'è rispetto reciproco, spero. Beh, ha sentito di queste rapine recenti a Napoli, i giocatori del Napoli, no? Questa serie di rapine, no? Sì. Vabbè. Niente di nuovo. Capita. Qualche volta. Va bene, Parenzo, sei tornato o no? Sento che sono tornato, ero qui col signor Gino, che è uno dei sostenitori del governo Monti. Ma non mi pare che sia sostenitore del governo Monti. Ha fatto le grandi inchieste di Parenzo, ha fatto delle considerazioni che va in taxi dicendo io sono a favore della liberalizzazione delle licenze. Ma non credo. Sì, ha appena detto che è a favore delle liberalizzazioni, Gino. Come, per carità? Ma non mi rovini. Lo scarichi, signor Gino, lo scarichi. Noi siamo considerati una loca. Quindi lei è a favore delle liberalizzazioni, no? Assolutamente no. Ecco, ha detto di sì, come avete chiaramente sentito. Sì, abbiamo sentito tutto. La cosa che voglio capire da Salvini è questa. Se lei dovesse scegliere in questo momento tra le posizioni della Camusso e le posizioni della Fornero. Oh, signor! Vabbè, è un gioco terza molto via. Semplice. No, che terza via. Via. Che terza via. Mi sembra che voi siete molto più vicini alle posizioni della signora Camusso. Si oppone al governo come vi opponete voi sulle pensioni, sull'articolo 18 e su tante altre cose. Meglio la Camusso della Fornero, questo si può dire. Ma la Fornero che piange e poi taglia le pensioni non mi sta simpatica. Questo caso la battaglia per l'intempestività sull'articolo 18, se chiunque la faccia ha la mia condivisione, perché non è così che si fa ripartire il paese dal nostro punto di vista. Tra Camusso e Fornero in questo momento se deve meglio la Camusso. Sì, anche se i sindacati sono assolutamente complici della situazione attuale, totalmente, come la classe politica, come me, come altri, però i sindacati, che almeno io da consigliere comunale di Milano vedo che si occupano più spesso di straordinari, dei loro iscritti, di trasferimenti, di favori e mica favori, più che dei lavoratori e di difendere coloro che fanno poco. ecco, la signora Camusso ha sulla coscienza una buona parte del debito di questo paese. Senta Salvini, ma lei è uno di quelli che vuole fare lo sciopero dell'IMU, come proposto da qualcuno, lo sciopero IMU, ICI, insomma, per intenderci, della nuova ICI che noi graverà. Stiamo impegnando tutti gli nostri amministratori locali ad applicarla al minimo previsto per legge, questo gli ascoltatori lo sappiano. Ogni comune potrà decidere se applicarla al 2, al 4 o al 6 per mille. Quindi andate dal vostro sindaco e chiedetegli urbanamente, cortesemente, di applicarla al minimo indispensabile. Però lo sciopero non si può fare, mi dica la verità. Lo sciopero non però si può fare. Stiamo valutando, senza danneggiare chi eventualmente vi aderisse, come farlo, anche perché in Italia ci sono 1 milione di case non accatastate, che non esistono da catasto. Quindi prima metti a catasto tutte le case costruite in Italia, poi fai pagare la prima casa. Vabbè, comunque, siccome sarà, è una cosa che verrà applicata subito, come fate a... Ma guarda, cioè, chi l'ha proposta qualcuno non sa che cosa dire. No, qualcuno si ricorda in passato la tassa sul medico, la tassa sull'Europa e l'imposta straordinaria sugli immobili. Cioè, è giusta un'obiezione fiscale fa. Per una cosa del genere? In alcuni casi sì, ma non lo dico io, sono l'ultimo degli scemi. Potrebbe essere giusta anche perché, partita da tassa che rimaneva ai comuni, con un'ottica federale, adesso va allo Stato. Non tutta, non tutta. In gran parte va allo Stato, quindi è una sola, come direbbe il signor Gino. Lei lo farebbe lo sciopero fiscale? Io, se fossi sicuro, non da europarlamentare, ma da cittadino, che qualcuno mi tutelerebbe in eventuali ritorsioni dello appunto, Stato ladro, lo farei. Le arriva una cartella da equità. Ma guardi, quando aiutammo a non pagare, non per evadere il fisco, ma perché la ritenemmo ingiusta, la tassa sul medico, avemmo ragione, tanto che poi lo Stato la restituì a chi l'aveva pagata. Ma lei ha contenzioso con Equitalia? Mi è arrivata la tassa sui rifiuti, 700 euro di mazzata questa settimana, che io avevo pagato, però vado a verificare. Ma nel passato ha avuto contenziosi, multe, con Equitalia, una cosa autostradale, sì, che sto portando avanti da 10 anni per questioni di principio, perché feci 4 ore e mezza di coda sulla Milano-Bergamo e al casello dissi non pago. Allora devi compilare il modulino e puoi farlo, e lo dico a chi è in autostrada, se ritieni che il servizio sia scadente, arrivi al casello, dici non pago, ti danno un modulo, lo compili, poi ti mandano a casa al sollecito e io glielo spernacchio ogni volta, vediamo chi si stufa prima. Da 10 anni io combatto con Equitalia per una cosa di questo tipo. Vabbè, traffico, poi ci parlerà della questione dei padri separati, perché lei ha detto questo molto volentieri. L'IMU colpisce, la nuova IMU colpisce soprattutto i padri separati. Cornuti, realtà... ma non so se Cornuti ma per dire, Cornuti, no, Cornuti e Mazziati come modus dicendi, dall'IMU. Traffico. Eccoci, 800 24 00 24, non ti voglio più sentire, ormai nei giorni precedenti le feste il suono di Parenzo che canta comincia a dare fastidio, non so perché. Aspetta, che è successo? Dramma Gino, che sta guardando la via dove... Ma noi non ce ne frega, ma chi se ne fotte? A noi non ce ne frega niente. Dramma Gino nel traffico. Vabbè, prima dei padri separati, che secondo Salvini sono doppiamente colpiti da l'ICI, perché sono doppiamente colpiti, scusi? Perché ce l'hanno segnalato molti papà separati, ad esempio c'è papà separati Lombardia Onlus, perché la casa rimane all'ex moglie in 99 casi su 100, e quindi tu sei proprietario di una casa dove non vivi e ci pagheresti l'IMU come prima casa. Paghi l'IMU per la tua prima casa dove non vivi. Se poi sei riuscito a comprarti un buco dove andare a vivere, paghi pure quello. Ma come seconda casa. Sì. E quindi paghi di più. E quindi i papà separati, o anche le mamme separate, anche se nella stragrande maggioranza almeno ci sono i papà. Però su questo stiamo lavorando. Lei parla anche per fatto personale. Io parlo da papà separato che fortunatamente non possiede abitazioni. Io abito a casa della mia compagna, quindi non c'è il conflitto di interesse No, quindi io non vado a guadagnarci, però per molti quelle 300-400 euro per un papà separato, che poi magari dà metà dello stipendio, perché anche questo è indegno, abbiamo presentato un progetto di legge perché non possa l'assegno superare il 20% dello stipendio. Qui invece è per fatto personale un po', No, in questo c'è un po' di conflitto di interesse. Io sono stato fortunato nella sfortuna del divorzio a divorziare da una donna intelligente con cui ci siamo messi assolutamente d'accordo su tutto nell'interesse del bambino, ma siccome ci sono molte donne che usano il bimbo, come ci sono degli uomini per par condicio che lavorano in nero e non danno una mazza alla mamma. Quindi, senta, per cui torniamo un attimo sulle lacrime della Fornero. Come la giudicate quelle lacrime? Vergognose. Addirittura vergognose. Dai. Non erano sincere? Ma per favore. Qualcuno degli ascoltatori crede veramente che preparandosi a stroncare alcune centinaia di migliaia di persone stesse piangendo? Magari venivano spontanee perché i sacrifici. Immedesimata. Non è che aveva una cipolla in mano, No, va bene comunque. Io ho una domandina su Tremonti per il signor Salvini. Tremonti ormai è roba passata. Voglio sapere se lo hanno già tesserato la legge. non è il mio ideale. Non è il suo ideale, forse per lei non ci sarebbe respinta la richiesta di adesione. Ma chi aderisce alla Lega Nord, aderisce alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Ma l'ha detto Bossi. No, ma se Giulio Tremonti viene in sede della Lega... Bossi ha detto, vogliamo, Tremonti verrà con noi, l'ha detto il signor Bossi Umberto, non Renzo, se signor Giulio... Bossi Umberto. Ma... visto che noi abbiamo circa 50.000 iscritti, se Giulio Tremonti, come Franco Rossi, viene a firmare la tessera in cui afferma di combattere e credere nell'ideale dell'indipendenza della Padania, sarà uno dei 50.000 iscritti. Allora, intellettuali in questo periodo contro la Lega, sentiamone alcuni. Umberto Eco, ecco, Umberto, no, questo, Eco. No, questo è vergognoso. Umberto Eco, voglio fare scaldare Salvini. Questo Umberto Eco, sentiamo. Ogni posizione politica crea poi i propri folli marginali. Se in Italia esiste la Lega, poteva esistere anche Casseri. Casseri è quel signore che ha sparato ai senegalesi a Firenze. Ha capito Salvini? Se esiste Casseri, se esiste la Lega, esiste anche Casseri. Insomma, sostanza, siete come Casseri. Insomma. Io penso che la Lega abbia fatto diversi errori e abbia tanti difetti. Ma però risponda ad Eco. È una porcheria, una caduta di stile, è una roba vergognosa, non da intellettuale. Una roba da lascio agli ascoltatori giudicare se la Lega e le sue battaglie possono centrare qualcosa con un folle, con un pirla che va per strada a sparare. Cioè, siamo però esiste un problema sul linguaggio utilizzato storicamente nei confronti del popolo dei migranti. Ma che popolo dei migranti? Noi siamo contro le immigrazioni clandestine e contro i campi rom, punto. Detto questo, non invitiamo nessuno ad andare in giro a sparare per strada, evidentemente. Eco si dovrebbe vergognare. Dovrebbe chiedere scusa. Io ho chiesto scusa alcune volte in passato per delle cazzate che ho detto. Eco, se fosse una persona seria, ho qualche dubbio, chiederebbe scusa ai 3 milioni di elettori della Lega. Abbiamo anche Toscani, però. Ma come? Ma è l'autore del nome della rosa. Se ne frega? New Entry Toscani. Ma come chi se ne frega? Ma è il nome della rosa. Ma io l'ho letto, però non sapevo che l'autore fosse portatore di cotanta intelligenza. C'è un cretino. Il pendolo di Foucault. No, questo non l'ho letto. L'ho lasciato a metà. Le mie doti intellettuali non mi hanno permesso di arrivare alla fine, confesso. Toscani. La Lega non è un partito, è una diarrea. Ma ragazzi, siamo nel 2012, stiamo parlando d'Europa. Ma io vergogno a raccontare ai miei nipotini che c'è la Lega. Sì, vergogna. Signor Toscani. No comment. Cosa dici? La Lega è una diarrea, è un'analisi politica abbastanza interessante, approfondita. No, probabilmente lui non condivide la nostra visione. Meglio Eco Toscani. Ma... Non mi ci metto. Cioè, più raffinato Eco o Toscani? Forse leggermente Eco. Devo scegliere, scelgo Toscani, che quantomeno è la Lega è una diarrea, è una posizione. Fa schifo. Associarci invece vilmente, vigliaccamente a un omicida è quello mi dà più fastidio. Se uno mi dà della diarrea, vabbè, me la prendo. Senta, il governo ieri Calderoli ha detto è antidemocratico. In Italia non c'è la democrazia, lei è d'accordo? C'è la democrazia o no in Italia? In Italia il governo lo vota il Parlamento e quindi la democrazia c'è perché i voti in Parlamento ce li hanno. È legittimo il governo. È legittimo, è stata una forzatura. Comunque lei non è d'accordo con quello che ha detto Calderoli? Non necessariamente dobbiamo sempre essere tutti d'accordo. No, per carità. È un governo formalmente legittimo, sostanzialmente non risponde a nessuno. Come funziona? Cioè Calderoli fa uso di alcol? No. Cosa stai dicendo? No, che ne so. No, sono posizioni, ma a volte, ripeto, Bossi, io ricordo, nel 96 disse prima o poi le manovre finanziarie in Italia arriveranno via fax da Bruxelles. Nel 96. 15 anni dopo le manovre finanziarie in Italia arrivano via fax da Bruxelles. Senta, per tornare alle cose nostre, il signor Tosi, sindaco di Verona. Grande che lei Flavio, lo saluto se mi ascolta. Che lei apprezza, infatti, come ma lo apprezzano i veronesi, più che Salvini che conta poco. Anche Salvini che comunque anche se ti fa Hellas. È vicino, vabbè, ma comunque questo è importante, non è molto importante. Ma può fare liste personali, secondo lei, a Verona? Le deve fare? Secondo me... Sì, ha tutto il diritto di fare le liste personali. Secondo me, visto l'ottimo lavoro svolto e per ampliare il consenso anche ad area vicino alla Lega, sì. Sì, assolutamente. No, sì. C'è qualcuno che non è d'accordo, come lei sa, no? Pare che ci sia anche una decisione. È un momento in cui la Lega ha contro tutti, televisivamente, giornalisticamente, Toscani, Eco, adesso probabilmente saremo colpevoli del buco dell'ozono, dello smog di Milano. Dunque... Quindi è un momento in cui saremo sotto attacco di tutti e quindi è chiaro che bisognerà ricompattarsi sul simbolo della Lega, però laddove i nostri sindaci e non solo a Verona, anche altrove sono hanno lavorato forti. Così bene, ma fu già eletto con una lista Tosi 4 anni fa e quindi non mi stupirebbe che venga rieletto e se posso dirla tutta da solo e senza il PDL con la Lega Nord e la lista Tosi. Ah, da solo senza PD. Sì, meglio ecco. Soli, meglio, meglio soli. Soli. Ma meglio quante possibilità soli ci sono di ricomporre col PDL? Al momento attuale poche. Poche quante? 10% nemmeno? Ma neanche. Sotto il 10%. Loro. Perché sono tutti perplessi per questa manovra, ma poi la votano. Beh, veramente perplessi. Quindi se uno è perplesso non la vota. Possibilità quasi zero. Ad diciamo. Oggi zero. Ad oggi zero. Ad oggi zero. Zero. Beh, anche nel 94 fu così, poi avete fatto tutto. No, veramente nel 96 sono andati da soli, poi è passato qualche anno. No, ho detto, hanno fatto la rottura, poi adesso sono 12 anni e tasse. Senti, io sono curioso di sapere una cosa. A Bologna, una cosa locale ma interessante, a Bologna l'ex candidato leghista al sindaco della città, Manes Bernardini, signor Bernardini, bravissimo ragazzo, d'accordo con l'Italia dei Valori, propone i quartieri a luci rosse. Sono d'accordo. È d'accordo. Lei li farebbe anche a Milano? Sulla legalizzazione della prostituzione sono assolutamente totalmente Bravo. D'accordo, a titolo personale non impegno la Lega Nord. Matteo Salvini sarebbe a favore, in un momento di crisi economica ti entra qualche centinaio di milioni di euro in cassa. Lei c'è mai andato con una prostituta, Salvini? No. Dove è legale, anche dove è legale, in Svizzera, credo, nella vicina Svizzera. No. Mai provato una cosa del genere? Ma non condanno che ci vai, però legalizzerei la prostituzione. Per mille uno motivi la prostituzione. Ma cos'è che le darebbe fastidio? Cioè l'idea di pagare il rapporto sessuale? Non ho mai avuto bisogno di andare a Mignotte, non so, ma non è che abbia avuto con questo un'attività sessuale particolarmente effervescente, però non mi è capitato, magari in futuro chi lo sa, non lo so. Oggi non la eccita il fatto di pagare una signorina, insomma. Questo proprio no. Senta, ma oggi voi vi sentite, lei si siete più vicino all'Italia dei Valori o al PDL? Mi dica la verità. Bravo, no, mi sento lontanissimi dagli uni e dagli altri. Lontanissimi. Guarda, ad esempio, ieri, ma piccole cose, ieri in Consiglio Comunale a Milano è passata una nuova tassa sui passi carrai. Cioè, magari i milanesi non lo sanno, da gennaio pagherà, se hanno il passo carraio allora pagano fino a 1000 euro. Sì. Ed è passata anche col beneplacito del PDL, che non ha fatto mancare il numero legale. Senta, Berlusconi oggi è archeologia? Oggi, quando parla, lei lo sente come una cosa archeologica o come una cosa ancora attuale, viva? No, Berlusconi ha ancora tanto da dare al paese, ma soprattutto al Milan. Soprattutto al Milan. Sì. Eccoci qui, la Zanzara, 1918, 800 24, 00 24. Arezzo? Sì, ci eccomi, sempre urlare il mio nome così alla radio. Ma sempre. Che devo fare? Cioè, a privacy, un po' di privacy, per Parenzo, che modo di fare? Ma privacy, sei alla radio, che privacy ci deve essere? Aspetta che devo trovare delle caramelle qui al caramelle mirtillo. Di cosa? Che al mirtillo, caramelle al mirtillo. Cos'hai, problemi? Puoi chiamarmi tra 5 minuti che devo fare una roba con delle caramelle. Ma come no? No, sentiti delle caramelle al mirtillo del Trentino. Ma perché hai problemi di voce? Non mi sembra. Perché? Problemi di voce? Perché le caramelle al mirtillo del Trentino si usa solo che ne so le caramelle, perché ti stai cercando le caramelle al mirtillo del Trentino, spiegami perché stai cercando le caramelle al mirtillo, ma non c'è mai più un minimo di privacy in questa trasmissione. I titoli del TG3. Sì. Buonasera a tutti e adesso i titoli del TG3 di Bersani. Due ore di colloquio tra Monti e Berlusconi, il Cavaliere con il Presidente del Consiglio, tutto ok, dialogo e collaborazione leale. Bersani, toccare ora l'articolo 18 sarebbe da matti, Ministro Fornero, non ho in mente nulla di particolare su quella norma. La manovra in Senato, domani il voto, Calderoli attacca il Governo, colpo di Stato, Schifani, nessun commissariamento della democrazia. Napolitano, sì alla dialettica, ma in un momento difficile per il Paese le forze politiche trovino unità nell'interesse comune. L'Italia verso la recessione, PIL in calo, occupazione a rischio, ora la BCE pioggia di denaro per le banche europee, aiuteranno la crescita? La Lega prende tempo e vota sì al rinvio sulla richiesta di arresto per Cosentino, sì alle intercettazioni per l'ex ministro Romano. Libera la petroliera da 10 mesi nelle mani dei pirati somali, ma i parenti dei marinai italiani aspettano ancora conferme. Bene, oggi Montezemolo l'ha detto, poi in realtà c'è stata una semismentita che scenderà in campo nel 2013, la più bella battuta che ho letto su questo argomento è che ha perso il treno. E un po' è così, sembra aver perso il treno, sono arrivati altri prima di lui a salvare l'Italia, tra virgolette salvare l'Italia, Monti, ma soprattutto il signor Passera. Monti che tra l'altro ha scelto una portavoce per l'estero, c'è una portavoce per la stampa estera, prendendolo a Bruxelles, ha lavorato con lui a Bruxelles tempo fa, una tale che si chiama Amelia Torres, portoghese. Qualcuno sostiene, ho letto da qualche parte, ma ripeto, non ho conferma, che la pagherà 11.000 euro al mese, a detta stampa non sua personale, a detta stampa per l'estero, per la parte che riguarda la stampa estera. Dunque uno potrebbe dire alla faccia del risparmio. E... ascoltatori, poi ancora Salvini per concludere. Giampiero da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Ah, c'è un'altra cosa che voglio dirvi, un'incredibile uscita della Fornero, il ministro delle lacrime, che ha detto sull'articolo 18 sono stata ingannata dai giornalisti, l'articolo 18 non ho in mente nulla, sono caduti in una trappola dei giornalisti, dunque noi avremmo parlato, secondo la Fornero, del nulla in questi giorni, perché lei sarebbe caduta in una trappola dei giornalisti, però uno se cade in una trappola dei giornalisti lo dice subito, non è che lo dice dopo qualche giorno dove c'è stato un confronto serratissimo tra la signora Fornero, la Camusso, i partiti, la solita commedia quando si parla di cose che riguardano i contratti di lavoro. Allora, eravamo con Giampiero. Giampiero, dica. Sì, buonasera a tutti. Io sono un piccolo imprenditore e avrei un pensiero da esprimere che secondo me è molto intelligente, poi dopo ai posteri la sentenza. Sì. Io dico una cosa, non sono favorevole alla riduzione dello stipendio dei parlamentari. Perché? Assolutamente, perché io credo che siano persone che hanno delle grandissime responsabilità e quindi certo sarebbe bello avere uno stipendio chiaro, definito, senza né indennità o rimborsi vari nascosti, e quindi uno stipendio, non so, adesso dico per dire 20.000 euro al mese nette, con i relativi contributi, ma siccome sono persone di altissima responsabilità, allora bisognerebbe che il loro stipendio è commisurato a queste responsabilità, ma altrettanto poi quando le loro responsabilità, quelle vere, cioè quando vengono presi con il dito dentro la marmellata, visto che 20.000 euro al mese sono oltre 10 volte quello che prende un italiano medio, la loro pena dovrebbe essere 10 volte superiore a quella di un Non ho capito assolutamente nulla di quello che lei ha detto, anche perché non si capisce bene come si fa a commisurare la responsabilità di che cosa. Lo stipendio deve essere corretto, giusto, in media con l'Europa, punto, senza alti, bassi, commisurare responsabilità, cosa? Un discorso strampalato, mi permetta di fare questa osservazione. Caro Giampiero, andiamo a Brescia da Luca. Mi scusi. Sì, dica. Non ho capito proprio, cioè non c'è proprio, non ci sono i presupposti per, cioè fosse anche di 20.000 euro al mese, però poi devono pagare di più. Ma che vuol dire? Cioè, concretamente non si riesce a capire. Vuol dire che se per un cittadino, quando un cittadino normale che viene colto con le mani nel sacco a truffare una ma persona, che vuol dire? Le pene sono le pene sono uguali per tutti. Corrotto, le pene sono, che fate? Piglia 5 anni perché è un politico e 3 anni perché è un comune cittadino. Ma di che stiamo parlando? Certo, assolutamente sì. Sì, assolutamente sì. Vabbè, lei ha una concezione del diritto tutta personale che non può essere chiaramente applicata a un paese normale. Grazie. Che dici, Parenzo? Cadi continuamente la linea questa ma sera. Ma no, cade la linea perché evidentemente c'è un problema di infrastrutture. Ma che infrastrutture? Il problema tuo, non di infrastrutture. No, che è il problema di infrastrutture del paese. Voglio chiedere una cosa perché dobbiamo liberare Salvini dopo. Allora, la cosa è questa. Oggi la Lega ha votato contro questa, non si capisce tra l'altro com'è possibile, contro, cioè a favore dei sindaci parlamentari, dei sindaci senatori in Senato. Cioè, la Corte Costituzionale aveva deciso che non è più possibile avere sindaci e parlamentari. Oggi la Lega, insieme ad altri partiti, insieme al PDL, ha votato contro questa incompatibilità. Lei è d'accordo? Si può fare il sindaco e il senatore? Secondo me sì, io sono d'accordo, perché A, aiuta i comuni dove il sindaco, comuni piccoli evidentemente, il sindaco di Milano è bene che faccia solo il sindaco di Milano, però un comune di 5, 10, 15 mila abitanti che non ti porta via 7 giorni su 7, sia il sindaco che anche in Parlamento è sicuramente agevolato. Qui infatti sopra i 20.000 si poi si risparmia. Sì, e poi si risparmia. Però qui sopra i 20.000 si discuteva. Io sono d'accordo che se uno è dotato di un minimo di buon senso e di organizzazione del si tempo, può fare il sindaco di una città come Milano, no. Evidentemente. Brescia, per esempio, però c'è Brescia, un sindaco che fa il deputato. Brescia che ha quanti abitanti avrà Brescia? No, 200.000 abitanti. Sì, sì. Secondo me una città come Brescia può essere amministrata bene da un sindaco che poi anche come parlamentare aiuta anche di più Brescia e non è pagato come sindaco. Sì, no, questo è chiaro, cioè l'incompatibilità è sbagliata. Secondo di me principio. È, va lasciata libertà ai cittadini. Se i bresciani poi non vorranno rieleggere il loro sindaco perché ha fatto troppo il parlamentare e poco il sindaco, lo decideranno loro. Però secondo me è una sciocchezza ed è una moltiplicazione di incarichi e di stipendi che in un momento come questo non hanno senso. Ieri Napolitano ha detto ancora una volta una cosa contro la secessione. Dice... sempre c'ha questo trip, questa angoscia della Padania che esiste. Trip, la Padania non esiste, il Nord non esiste. La Padania cioè, sì, ma i popoli decidono democraticamente cosa fare, dove andare. Napolitano. Cioè, c'è la secessione, c'è la fissa della secessione. Si alza come qualcuno, c'è la fissa di Berlusconi la mattina, il pomeriggio, la sera. Napolitano ha la fissa della Lega, di questo Nord, che poi peraltro conosce anche poco. Dici, Sì. No, vabbè, magari lo conosce. Però Salvini, scusi, ma è il capo dello Stato, se non tutela l'unità del paese. Ma fa il suo mestiere di Napolitano. Certo. Qual è il suo mestiere di Napolitano? Cioè, è evidente che il capo dello Stato il suo non può... cioè, è un problema, secondo lei? È un problema di ossessione? Secondo me è ossessionato da queste. Ma se uno continua a dire che la Padania non esiste, allora, sì. Se una cosa ma non esiste, se Cruciani non esiste, io lo dico un'altra, poi non è che vado avanti. Non mi accosta se la Padania. Se continua a dire che Cruciani non esiste, evidentemente però ho un problema. No. Vedrà. Il momento non esiste. Cruciani è residente a Milano, che magari fra una decina d'anni. Ma io, per carità, chi lo sa dove sarà. A Milano ancora con questa storia della Padania, voglio dire, dite che esiste anche appunto la famosa ma guardi Repubblica oggi la Catalogna non esiste come realtà indipendente, no? Dolce, no? No, come si chiama? No, quella è l'insalata. La Catalogna oggi non esiste come realtà indipendente. Beh, esiste una regione importante. È una regione come la Lombardia, autonoma molto più del perfetto. E hanno appena votato, la maggioranza dei catalani ha votato i partiti indipendentisti, hanno detto che fanno un referendum. Non vogliono essere indipendenti. E se fra 5 anni la Catalogna esistesse? Vabbè, la Baviera esistesse? Ma non credo. Beh, comunque, Napolitano, stia tranquillo, se la Padania non esiste, di che si preoccupa? Lui la secessione, se la gente non la, se la, gente bene non la vuole, la secessione non ci sarà. Ho capito, ma infatti... parli d'altro. Ma lei come si avvicinerebbe alla secessione? Con quale passaggi? La richiesta di un referendum? Guardi, secondo me, sì, assolutamente, democratica. Ma come ha fatto il Quebec in Canada? Quebec, capito, che è una regione abbastanza evoluta, sviluppata, non stiamo parlando... Però ci sono delle specificità del Quebec che non sono assimilabili a quelle... Economiche, linguistiche, culturali, ma l'Italia è bella perché è molto diversa al suo interno. Cioè, la Padania è come la Cecenia, praticamente. No, la Cecenia la lascio a lei con la scia di morti che purtroppo ci sono state. Come i corsi, ad esempio, no? Corsi e ricorsi storici, io no, i corsi della Corsica. I corsi, quelli che vogliono l'indipendenza della Corsica. Ma io non li conosco abbastanza. Un'ultima cosa, ma la Lega dovrebbe votare per l'arresto di Cosentino, secondo lei? Non è in Parlamento? No, non sparo a capocchia, non ho elementi per giudicare. Posso dirle che a pelle, per quanto ho letto, non mi suscita simpatia. Vabbè, però quello, non conosco quello... gli atti, no? Non mando in galera una persona non conoscendo gli atti. Si deciderà il 10 gennaio, oggi c'è stato uno slittamento. Vabbè, con possibilità di comporre con Berlusconi sotto, quasi vicino allo zero, diciamo la verità. Ad oggi sì, perché ripeto, quella che sta passando non è una manovra, ma è un massacro. E chiunque sia complice di questo massacro faticherà a dialogare con... Ma più che con la Lega, fai che non esista la Lega. Con chi? Però con chi ci rimetterà? Con gli imprenditori che si suicidano. Vabbè, adesso non è questa manovra, fa suicidare gli imprenditori. No, si sono suicidati prima. Si suicidano comunque. Perché lo alcuni, Stato non paga. Alcuni. Perché questo Stato non paga e con questa manovra pagherà allora... ancora meno. Non... Vabbè, nessuna sarei andato a pigliare i soldi altrove, perché uno dice vai, la Lega dice non toccate tra le pensioni. Tra Maroni e Calderoli chi ha più possibilità di diventare il nuovo leader della Lega? Tra Maroni e Calderoli? Bossi. No, vabbè, questa è una risposta scontata. Tra Maroni e Calderoni. Bossi, Umberto. Chi la spunta tra Bossi, Maroni Umberto, e Calderoni? Umberto Bossi. Grazie a Matteo Salvini. Siamo qui, 19:34, 800 24 00 24, e devo dirvi che sono d'accordo con quelli che scrivono in queste ore, in questi minuti, sui vari blog, su Twitter, che alla fine di questa storia dell'articolo 18 della riforma del mercato del lavoro non ne uscirà assolutamente nulla, come sempre succede in Italia. Ma è una vergogna, come no, è fondamentale, è una cosa assolutamente su cui bisogna intervenire. L'hanno detto tutti. Ma chi? Guarda, a me che me ne frega di chi lo dice, io dico quello che penso io, non quello che pensano gli altri. L'articolo 18 riguarda poche migliaia di lavoratori. Ma non è quello il punto, ma non è Hai ragione tu, non è che ho ragione io, è che vi siete impuntati. Ma in generale, la riforma del mercato del lavoro dicono no a tutto. Ma quello che c'entra? Un conto è la riforma del mercato del lavoro. Dicono no a tutto. Anche a modificare quello che serve modificare, e serve modificare alzando per esempio la soglia da 15 a 30, come fu proposto anche dai tuoi amici radicali tempo fa, dunque tu dovresti essere d'accordo, alzare da 15 a 30. In base all'ammasso, in base a quello che dicono, se i radicali dicono una cosa, ma tu non sai nemmeno perché è giusto modificare l'articolo 18, non sai nemmeno perché è giusto farlo. Sono a favore della riforma dei contratti, sì, che è cosa diversa dall'articolo, certo, ma non è così. La flex security, sì, pagare di più il tempo determinato, cioè diciamolo una volta per tutte, perché mi sono rotto le palle. In questo paese i precari devono essere pagati di più di quelli assunti a tempo indeterminato. Ma non è che dicendolo ieri. Ma l'hai già detto ieri, lasciata così questa cosa. Me la tieni ripetita, Juvan. Va bene, d'accordo. Stefano da Como, buonasera. Chi è adesso sto Stefano? Un ascoltatore. Stefano, dica. Salutalo. Stefano, prego. Sì, da Cantù. Io volevo il numero del ministro Calderoli. Il numero di telefono? Sì, visto che c'è di Salvini, perché vorrei insultarlo come ha fatto lui con il nostro signor Monti. Perché secondo me non è giusto che si rivolga in maniera così maleducata in un Parlamento, soprattutto per il fatto che lui, ex ministro della semplificazione, che praticamente di semplificazione non ha semplificato nulla, dice lei. Stefano, si rivolge come ad un avversario politico con i toni di Roberto Calderoli. Non mi è sembrato, come dire, il Calderoli più cattivo del secolo, insomma, se proprio vuole sapere la mia opinione. Insomma, lo zio di Bonanni, secondo lei, Fantozzi, il ragioniere. Io voglio sapere appunto la sua opinione. Secondo lei merita di parlare il ministro Calderoli? Ma che vuol dire merita di parlare? Tutti meritano di parlare. Che dobbiamo fare? Sopprimerlo? Non ho capito. Che dobbiamo fare? No, è stato su fino adesso lui e non ha combinato niente. Queste sono analisi politiche che si possono fare. Io non sono d'accordo con la manovra, ma non si può rivolgere così al ministro Monti, se Calderoli comunque ha una parte del merito di quello che ci ritroviamo adesso in Italia. Va bene, grazie Stefano. Stanislao da Roma, buonasera. Stanislao? Signor Stanislao, sì, buonasera. Bello, buonasera. Mi ha già anticipato il precedessore, Stefano. Guardi, siccome qui la faccia tosta ormai non ha più limite, io vorrei dire chiaro che tutti possono criticare la manovra di Monti e probabilmente in gran parte hanno anche ragione. Gli unici che non hanno proprio alcun diritto di criticarla sono coloro che hanno governato questo paese fino a un mese fa, ovvero Berlusconi, PDL e Lega, e che sono i principali artefici del disastro in cui ci troviamo. Costoro invece dovrebbero stare zitti per almeno i prossimi 20 anni per farci dimenticare quello che hanno combinato negli ultimi 20 anni. Sì, per quanto Monti farà male, peggio di loro difficilmente potrà fare. Questo... E poi se mi permette un appunto a lei, che ha liquidato con parecchia supponenza l'ascoltatore precedente che ha detto i politici potrebbero guadagnare uguale, però dovrebbero rispondere di più di loro eventuali errori o reali. Ma non si possono fare due codici penali, abbia pazienza. Faccia silenzio. L'ignorante in legge, invece l'ignorante è lei, perché questa cosa già esiste. I pubblici ufficiali hanno una responsabilità, ad esempio, superiore rispetto ai normali cittadini. Ma ho capito, ma non è che... Quindi è inutile che date l'ignorante agli altri. Stia calmo, Stanislao, il punto non è questo. Allora non mi interrompa se vuole che sto calmo. Io interrompo quando voglio, primo, Stanislao. Allora guardi, può interrompere quando vuole, parla da solo. No, ma non sto parlando da solo. Lei sta parlando tranquillamente senza nessun problema, per cui non rompa le scatole, continui a parlare quanto vuole. Vabbè, basta che non dice stupidate. Cruciani, buonasera, si diverta da solo. Stanislao, lei può parlare e può dire quello che vuole, non ha capito ancora che qui lei può parlare e può dire quello che vuole senza problemi, per cui è inutile che se uno ogni tanto interrompe perché evidentemente c'è motivo di interrompere, perché voglio interrompere la discussione fatta così. Lei è il direttorissimo, cioè può fare quello che vuole. È ancora in linea il signor Stanislao? Non è lì, va bene, ma insomma ognuno ha i suoi nervosismi, le sue paturnie. Signor Stanislao, il punto è molto semplice, semplicissimo. Non possono esistere pene, come dire, evidentemente quando uno è un pubblico ufficiale risponde di certi reati, ma non è che uno può essere colpito maggiormente perché è un politico rispetto a un semplice cittadino dal punto di vista della... del diritto. Grazie, grazie Renato da Catania, buonasera. Il ministro Fornero, il ministro Fornero batte in ritirata, scrive il direttore di Panorama Giorgio Mulè nel suo Twitter sull'articolo 18. Bravo, naturalmente. Molte lacrime, niente sangue. Non è male. Renato, dica. Sì, sono qua. Vada. Buonasera a tutti. Sì. Buonasera, prego, vada. Allora, innanzitutto vabbè, non sento nulla. Umberto da Verona, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a lei e al suo vassallo. Sì. Il suo, cosa ha detto? Vassallo. Cosa ha detto questo signore? Vassallo. No, guardi, Parenzo, vassallo, io non lo dica suo fratello intanto. Io non ce l'ho con lei. Lei è un vassallo per antonomasia, perché lei non il Cruciani ha bisogno vassallo. Di un vassallo. Lei non quindi sa che cosa lei vuol dire deve prestarsi. Ora, diciamo, il suo turno, c'è stato Telese, poi ci sarà qualcun altro, perché lei ovviamente sarà... Lei da solo che soffre certo di solitudine, lì che gira dentro la testa, poverino, cercando compagnia. Però, prego, no, dica. No, non dica così. Guardi che io sono... invece sono molto simpatizzante per quello che la riguarda. Ma non gliene frega niente a Parenzo se lei è simpatizzante vassallo, o no, se lei chiama se lei lo chiama vassallo a Parenzo non gliene può fregare di meno. Ma lei, no, vede, mi dispiace per quel neurone c'è che stato è qualcuno solo. Che ultimamente ha usato una frase latina che diciamo era di moda fra il 500 e l'800 dopo Cristo, prima di Carlo Magno. Diceva questa frase: cuius regio, eius religio. E allora che vuol dire? Sa che significa, no? Sì, certo. Immagino di sì, che lo sa. Allora, guardi, praticamente è chiaro che lei, dato che Radio 24, che è radio seria e sicuramente di grande qualità, le ha dato questo spazio, va bene, in modo assolutamente inopportuno, no? Questo spazio di lavoro che lei sfrutta a suo piacimento, offendendo spesso e volentieri le persone semplici come me, ma io non sto offendendo nessuno, Umberto. Lei si sta offendendo da solo, forse, perché io non sto offendendo nessuno. No, guardi, lei lo fa ripetutamente in modo insolente. Va bene. Però vede, sa cos'è? Io nelle mie notti insonni, no, spesso sì. E volentieri mi chiedo, sì. Per esempio, no, fra i vari pensieri, non è che lei sia in cima ai miei pensieri, beh, può darsi pure, può succedere ogni tanto. No, siccome mi fa un effetto soporifero questa cosa qui e benissimo. Mi aiuta tante volte, mi chiedo. Beh, ottimo. Ma che cosa vuole? Ma non so cosa vuole. Riesca ad essere più arrogante appunto con le persone semplici che la chiamano e fanno bene a continuare a chiamarla. Magari. Oppure più lecca culo nei confronti dei vari esponenti che via via ci governano e via sono agli onori della Ma non lo so, lasciamolo sfogare. Ma perché? No, io la lascio sfogare tranquillamente, è un momento di sfogo personale, io, lo capisco. Guardi, lei per prendere il telefono in mano, per prendere il telefono in mano e per chiamare e per poi ricevere una nostra telefonata, perché di solito succede così, evidentemente si voleva sfogare, aveva qualcosa per cui sfogarsi. Va benissimo, lo capisco, è un sentimento umano, fa parte delle nostre debolezze, delle nostre caratteristiche, della nostra umanità, del nostro pensiero, della nostra vita. Uno ogni tanto se vuole sfogare. Se vuole sfogare, vabbè, pazienza. C'è un problema. Ma non c'è nessun problema. Per questo. Io l'ho chiamata anche per questo. Soprattutto dirle una cosa che mi ha fatto, guardi, sinceramente, veramente incazzare. Sì, vada. Per usare il vostro appunto, frasario, si vuole sfogare, no? si sfoglia, no, Umberto, si sfoglia. Guardi, io qualche sera fa ho cercato di telefonare, no? Sì. Per parlare della questione Zagaria, arresto di Zagaria e della questione Saviano. Sì, Saviano. Perché lei ha apostrofato anche Saviano come un personaggio che... diciamo alterato, inopportuno nell'esprimere. Ma assolutamente io non ho detto una cosa del genere. Lei sta sognando. No, si sente alla registrazione. Lei ha detto. No, io non sento nulla, non voglio sentire nulla. Non capisce per quale motivo si sia tanto rallegrato per l'arresto di Zagaria. Ma no, ma non era questo il punto. Era l'enfasi messa da alcuni siti sulla dichiarazione di Saviano, punto. Guardi, non c'è. Non per il merito della cosa. Lei non ha capito, ma comunque va bene uguale, va bene lo stesso, si sfoghi. Non le auguro, io mi auguro che lei possa attraversare quello, diciamo, in maniera assolutamente trasversale e marginale, perché cosa vuole? Saviano è Saviano, i magistrati, gli inquirenti sono quelli che stanno veramente sotto il tiro del fucile, però che possa passare, quello che io non ho capito il senso del telefono. Semplicemente come operatore economico in quelle zone, sì, che naturalmente navigando in quei canali, no? Sì. Navigando in quelle fogne, si è ritrovato a sporcarsi un tantino di merda, scusi il termine. Bene. Perché navigando nelle fogne questo succede. Allora, semplicemente per il fatto che io navigavo lì, ma perché il lavoro mi portava a navigare, ma sempre le assicuro, con la faccia e con le mani e con il cuore puliti, sì, io ho dovuto sopportare e subire quello che ovviamente moltiplicato per X milioni di volte sopporta certamente un uomo che vive male, sicuramente non vive bene, come Saviano. Vabbè, allora che cosa vuole? Non ho capito che cosa vuole, allora, dove vuole arrivare con questo ragionamento. Quello che le voglio dire, sia un pochino più cauto, cioè sì, lei si gode il suo l'autostipendio, si sì, goda il suo, il caldo del suo, si sfoghi, ufficio, si sfoghi, goda si sfoghi la sua magnifica notorietà. Però, si sfoghi, guarda, pure, si sfoghi pure. Com'è? Si sfoghi pure, Umberto, quando ha finito poi mi avverte. Ha finito, benissimo. Anzi, ora ho finito, guardi, faccio come Berlusconi. Faccio come Berlusconi. Guardi, a questo punto sento anche freddo, no? Perché ormai... Dove si trova? È un freddo? Sono in macchina, stavo per andare a casa dopo una giornata di lavoro. Allora, guardi, appunto, no, capisco. Guardi, le auguro semplicemente di poter essere un pochino più cauto, perché vede, lei può sfottere, può essere arrogante, sono qui può per questo graffiante, sono qui però per questo più cauto per certe cose, perché guardi, le assicuro che vivere certe esperienze, sì, che sono esperienze che ci attraversano l'esistenza. E allora, ma chi l'ha messo mai in discussione questo? Non ho capito, Umberto. No, lei è partito da una frase che ho detto, che era riferita al modo in cui vengono riprese certe opinioni, all'enfasi che viene data a certe opinioni, secondo me esagerata, e lo ripeto, con una critica alla persona, che non c'entra assolutamente nulla. Io stavo semplicemente riprendendo il modo in cui un giornale online, un quotidiano online, dava risalto all'opinione di una persona. Punto. Del resto non me ne frega nulla, lei sta facendo tutta una... questa è la sua non vita, è la vita... La mia non vita? La sua non vita, intendo dire, di Saviano, che lei... Ma come interessa a me? Non mi interessa... Ma non è questo, non mi interessa quell'aspetto là, non era quello il punto, lei non ha capito, semplicemente non ha capito. Non ho capito, la prima volta non sarà neanche lui. Benissimo, no, ma succede spessissimo anche a me, durante il giorno, figuriamoci se non succede anche a lei. Siamo esseri umani, qualche volta ci capita di non capire bene le cose, mi sarò espresso male io. La ringrazio e l'abbraccio fortissimo, alzi il riscaldamento della macchina, si avvicini a casa e passi una buona serata. Michela sempre da Verona, sentiamo se la signora Michela da Verona invece si vuole sfogare oppure... Buonasera Cruciani. Vada. Senta, io la chiamo perché sento dire spesso in questi giorni che se questa manovra l'avesse fatta Berlusconi ci sarebbe stata la guerra civile. E secondo me è un discorso che semplicemente non ha senso, perché ognuno nel suo lavoro, come forse anche in genere nella vita, fa quello che vuole o comunque quello che è in grado di fare. Quindi se lui non l'ha fatto, o non voleva, o non è stato in grado di farlo, e quindi è un suo limite personale, ha avuto dei pregi, ha riuscito a fare delle cose che voleva o gli interessava fare, e alcune cose che erano richieste al paese non ha dovuto demandare a qualcun altro il fatto di farlo, quindi non ha senso dire che gli è stato impedito. Anche secondo me non ha senso, perché quando uno dice se l'avessi fatto io queste cose mi avrebbero condannato, ci sarebbero stati i forconi, è vero, però questa è la responsabilità di chi è al governo e di prendere in teoria decisioni anche impopolari. Infatti, e quindi è una cosa che sento sulla bocca di tanti, ma che non che denota proprio. L'avessimo fatte noi queste cose ci avrebbero rincorso con i forconi. Se avesse due ruole sarebbe una cariola, cioè non è un discorso. Cioè, come dite voi, o funziona o non funziona, e lui non è arrivato lì, e oltre quello non è andato, cioè, come dire. Grazie Michela, grazie. Salve, Andrea dalla provincia di Padova, buonasera. Sì, buonasera e auguri di buone feste a entrambi. Io volevo fare una riflessione sulle parole che ha detto il segretario del Partito Democratico un paio di ore fa sulle proposte del ministro Fornero. Ecco, credo che sinceramente il Partito Democratico, che è il secondo azionista di maggioranza di questo blocco che sta appoggiando il governo Monti, deve decidere cosa vuole fare, cioè nel senso c'è una linea che è quella della responsabile Fassina, che ha esponenti del PD, tipo Nerozzi, ex sindacalista, che è a favore appunto di questa linea di opposizione al governo sulle materie del lavoro, collaterale con la CGIL, oppure c'è chi appunto è favorevole a una riforma. Credo che, e qui bisogna parlarci chiaramente, molte aziende in Italia non hanno alcun tipo di protezione. Bravo. E l'articolo 18 se lo sognano. Io che sono del nord-est un po' allora... ne so di queste cose e dico che il PD non può difendere l'indifendibile. Ci sono realtà che hanno avuto troppi privilegi da questo punto di vista, bisogna che queste realtà facciano dei sacrifici. Questo dico perché ci sono veramente realtà piccole e medie imprese sotto i 15 dipendenti dove i sindacati non sono mai entrati, dove i padroni sono ex operai che sanno dove viene la fatica del lavoro. Dico infatti il problema è la grazie, non grazie. È l'articolo 18 ma i contratti. Bravo, grazie ad Andrea dalla provincia di Padova. Grazie Andrea dalla provincia di Padova. Devo dire una cosa, che in questa discussione che c'è stata in queste ore sull'articolo 18 che qualcuno definisce surreale, la posizione del Partito Democratico è abbastanza bizzarra per questo motivo. Cioè, Bersani ho già detto siamo matti, non si può adesso intervenire sull'articolo 18 eccetera. Siamo matti, ma vogliamo smacchiare il giaguaro? Come è follia intervenire sull'articolo 18, insomma, più o meno un'espressione di questo tipo. Bene, ma non c'era la delega al governo tecnico? Cioè non c'era il fatto che la politica faceva un passo indietro, adesso bisogna fare riforme fondamentali, certo, eccetera eccetera, o no? Oppure, oppure c'è la continua contrattazione con i partiti, eccetera eccetera. Cioè ci sono i geni da quella parte, quelli che adesso devono risolvere le cose, oppure una cosa al 50%, oppure sono geni però poi quando si toccano certe cose non sono più geni. Attenzione. Beh, adesso comunque i primi geni sono al governo, nel senso che se, come tu hai ricordato giustamente, c'è la marcia indietro della Fornero, i primi geni stanno al governo evidentemente. Questo non c'è dubbio. Ormai tutti possono discutere di tutto, mi pare che questa spinta, no, in cui bisognava fare delle grandi cose sia già annacquata, però bravo. Marco Rizzo è con noi, buonasera. Comunisti, questa discussione sul governo, eh? Comunisti sinistra popolare, buonasera. Buonasera, basterebbe che Bersani non faccia più votare la fiducia a questo governo e avrebbe che risolto la sua tenuta dura, solo che in realtà Bersani fa un doppio gioco dal punto di vista della politica che ormai non... Che doppio gioco fa, signor Bersani? Molto semplicemente deve, da un certo punto di vista, concentrare il proprio elettorato che è sconvolto da questi tagli e da queste ulteriori massacri che ci saranno poi... anche dal punto di vista dei diritti, e contemporaneamente però è l'azionista, non il secondo azionista, è l'azionista politico di maggioranza di questo governo Monti, che è il governo delle grandi banche, il governo che ha sospeso la democrazia. Monti non è stato eletto, non c'è stata nessuna elezione del popolo nei confronti di Monti, l'hanno votato dei nominati peraltro. Senta, a proposito di popolo e di elezioni, lo sa che lei voleva arrivare su questo, perché come si può dire, è stato utile quel telegramma, vedi, per parlare anche di questo. Ma scusi un attimo, ma come le è venuto in mente, come responsabile e segretario del partito dei comunisti sinistra popolare, fare un telegramma per esprimere dolore e insieme le condoglianze al popolo nordcoreano per la morte di Kim Jong-il? Molto semplicemente, come capita quando si hanno relazioni con paesi, con partiti, si fa un telegramma di questo genere. Ma no, ma questa... La cosa divertente è il... Ma chi è la... Ti do la parola, saluto anche David. Ciao. Il casino che ne... Ciao David. Che ne è venuto fuori. Vabbè, casino, adesso non esageriamo. No, va bene, nei blog, nelle cose... La cosa divertente è, ad esempio, che il 14 dicembre di quest'anno, alla Camera, una commissione... che si era recata all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, che aveva incontrato il vice ministro degli esteri della Corea. Questa commissione, questa delegazione italiana era fatta da senatore del centrodestra, del centrosinistra, Bini, Tonini. Sì, ma ho capito una cosa, sono delle relazioni. No, è appunto perché loro lo possono incontrare e io non posso mandare un telegramma. Ma scusa, era un dittatore, Kim Jong-il. Siamo al punto. È da 40 anni che si spiega che, guarda caso, quel paese che è stato aggredito nel 1950. Non si sente più nulla, non si sente più nulla. Lei ha l'auricolare. Lo sente? Sì, adesso sì. Allora, è stato aggredito nel 1950 dagli Stati Uniti e da 17 paesi, poi ci sono stati 4 milioni di morti. E poi c'è stata una tregua al 38esimo paese. Vabbè, insomma. Da allora segue un embargo molto peggio di quello di Cuba. Cioè lei mi sta, lei mi sta dicendo che sono vittime del capitalismo. In questi 40 anni sono vittime del capitalismo. Hanno spiegato che lì costruiscono il mostro di Firenze. E uno giustamente che manda un telegramma a chi costruisce il mostro di Firenze, no? Beh, scusi, ma non mi dirà che in Corea del Nord vige la democrazia? Guardi, comunque è un paese. In tanti altri paesi del mondo non vige la democrazia, ad esempio l'Arabia Saudita, da cui provengono la maggioranza degli attentatori dell'11 settembre. Scusi un attimo, se lei dovesse scegliere dove andare a vivere, andrebbe in Corea del Sud o in Corea del Nord? No, io resto in Italia. No, ma se dovesse scegliere tra Corea del Sud o Corea del Nord? E la solita domanda si fa su Cuba. Se io dovessi scegliere se vivere. Appunto, no, ma scelga, vai in Corea del Sud o in Corea del Nord? Mi stia ascoltare il ragionamento. Ogni paese va visto nel contesto geopolitico. Ma quale contesto? Lì c'è una dittatura ferrea che porta alla fame milioni di persone. Come no? Queste sono propaganda. Ma come propaganda? Se io devo scegliere se stare in Honduras o a Cuba, sto a Cuba. Se io devo scegliere se stare in Guatemala o a Cuba, sto a Cuba. Se io devo scegliere se stare in Italia o a Cuba, il paragone non regge, perché bisogna dire preferisce lei Francia, se dovesse Italia, scegliere Francia, va in Corea del Sud o in Corea del Nord? Beh, se fossi un operaio probabilmente sarebbe meglio stare in Corea del Nord. Ma quando mai? Ma lei sta dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma lei forse non conosce la realtà, non la conosco nemmeno io, ma insomma dai racconti, dalle cose. Se la Corea del Sud, allora forse voglio stare in Corea del Sud. Dipende sempre da un attimo solo, pubblicità, torniamo subito. Rizzo, cerchiamo di collegarci meglio perché non si sente nulla. Bene, riprendiamo con la zanzara 800240024. Dopo aver appreso dal signor Marco Rizzo dei Comunisti Sinistra Popolare, che è uno dei tanti partiti comunisti che c'è in giro, vero Parenzo? Perché sono divisi anche lì in mille rivoli. Un arcipelago di comunisti. Un arcipelago di comunisti che in realtà è meglio vivere in Corea del Nord che in Corea del Sud, secondo lui. Il signor Marco Rizzo ha espresso come segretario di questo partito ha espresso le condoglianze e anche presentato espresso dolore, presentato le condoglianze al popolo nordcoreano per la morte di Kim Jong-il. Però è divertente, ma quando muore uno gli altri cosa fanno? Tirano, ma dipende chi muore, un petardo, cosa fanno? No, la normalità delle relazioni. Ma nessun partito italiano ha fatto una cosa di questo tipo, ci sarà un motivo, no? Perché i partiti italiani sono asserviti al pensiero unico del capitalismo globalizzato, devono star lì dentro, perché dovrebbero fare una cosa del genere? Ma no, ma scusi, esattamente così. Poi se la cosa divertente, che a me devo dire diverte, è appunto che appena uno esce da questo pensiero unico, ma non è uscire dal pensiero unico, è certo che è uscire dal pensiero unico, perché l'importante è non uscire da questo capitalismo globalizzato. Poi uno può anche fare, ma l'alternativa non può essere la Corea del Nord. Ma chi l'ha detto di fare l'alternativa con la Corea del Nord? Uno manda un telegramma, mica uno. Vabbè, ma è un telegramma, lei aggiunge tra l'altro, allora, guida della causa rivoluzionaria dell'ideologia Yuke e del partito, dell'esercito e del popolo della Repubblica Democratica Popolare di Corea. Allora mi faccia fare solo un ragionamento compiuto. Sì. Dire che sono matto, no? Allora dico, il nodo molto semplice è questo. In Italia uno, se esce da questo pensiero, no? Viene immediatamente ridicolizzato, a meno che dica delle cose che stanno dentro il meccanismo del sistema. Ma non è per così. Cui gli indignati, il popolo viola, va tutto bene, perché vogliono delle correzioni. E invece lei che vuole? Non esistono. Ma il capitalismo non può essere corretto. Lei vuole il comunismo, il partito unico. Il partito unico è divertente, ma perché oggi non c'è il partito unico del capitale? Vabbè, adesso vede il centrodestra e il centrosinistra differenti. Ora addirittura la politica in Italia, come in Grecia ad esempio, viene messa da parte, ma quello è un altro discorso. Addirittura i poteri economici veri dell'Europa, le grandi banche, prendono in mano la politica. Non mi faccia essere d'accordo con lei però su questo. Ma è purtroppo è così. Perché Rizzo, altrimenti mi preoccupo un po'. Ma infatti il problema qual è? Che poi quando si dicono queste cose è meglio fargliele dire a Scillipoti. No. Può dirle anche lei, Rizzo. Il problema è che l'alternativa al fatto che oggi in Italia oggettivamente c'è un problema di un governo sorpresa, dirlo? Sì, ma io lo dico tranquillamente, lo dico sin dall'inizio, per cui non è un problema. Lo dice Giuliano Ferrara, per cui si figuri. Per cui l'alternativa a questa roba qui non è lo Yuke o il partito o Kim Jong-il o la Corea del Nord. Ma infatti io non ho detto che l'alternativa è quella. Ma cosa. Sì. Sto dicendo che appena uno esce fuori dal coro. No, intanto c'è un problema anche di occidentalismo razzista, per cui c'è un socialismo asiatico che c'è, ma qual è il socialismo asiatico? Dalla ma quello non è socialismo, noi mangiano diversamente da noi, hanno una cultura politica e etica diversa dalla nostra. Ma parliamo dell'Italia, per la politica io, lì. Io voglio da questo punto di vista dire Marizzo, che questa politica uccide... italiana è totalmente asservita. Il centrodestra, vabbè, il centrosinistra, a che cosa? Al capitale, al capitale. Ma allora anch'io sono asservito al capitale. Anch'io sono asservito al capitale. Penso che il capitalismo sia un sistema imperfetto, però è l'unico che abbiamo e poi è per fortuna l'unico, esatto, che garantisce un po' di libertà. Io penso invece, e la storia ce l'ha in parte dimostrato, sì, che anche se non nei punti previsti, che le classi meno abbienti possono provare sì a governare diversamente questo mondo. Ma guardi che in Corea del Nord non accadeva questo qua. Con questo modello non accade questo. Guarda, intanto la Corea del Nord sono rimasti indipendenti. E beh, che dalle altre dire parti si sono asserviti. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol indipendenti dire? Da questo ma indipendenti dalla logica, sono indipendenti, sono indipendenti dalla civiltà, allora, è una cosa diversa. Benissimo, cioè, benissimo. Allora io le sto dicendo però che questo modello di sistema, se fosse portato in tutte le latitudini del mondo, farebbe scomparire il pianeta, perché quello che consumano gli americani richiederebbe 5 pianeti. Però scusi un attimo, allora Rizzo, scusi un attimo, è meglio la Corea del Nord del nuovo, che non so manco come si chiama e chi. Guardi, me lo è sa. Meglio, è la stessa roba che lei mi chiede, è meglio il Torino calcio? No, ma non è così, che vuol dire? Ma no, è meglio la Corea del Nord di Monti? È meglio il leader della Corea del Nord di Monti? Posso dirle che Monti, una notizia politica, che Monti è peggio di Berlusconi, e quelli della finta sinistra, e quelli della finta sinistra, i tifosi della sinistra, non lo dicono. Perché? Cioè lei preferiva ormai il governo Berlusconi al governo Monti? No, io dico. Beh, lo dica, abbia il coraggio di dirlo. Ho detto che il governo Monti è peggio di quello Berlusconi, perché quello di Berlusconi andava combattuto. Però ad esempio sulle pensioni levava 3 anni i pensionati. Quello di Monti ne leva 6 anni. Però arrivi fino alle estreme conseguenze. Berlusconi è meglio del governo Monti, perché no, almeno perché è stato eletto. E allora se allora lei è nel mucchio. È nel mucchio. Non si distingue, non si distingue. Il fatto che io non sia nel mucchio sta proprio nel fatto che ho fatto quel telegramma. E vabbè, ma quello ci vuole dire, quello della sinistra, che sono lì a chiedere. Quello lei è comunista, lei è comunista. No, i fighetti della sinistra, anche quelli comunisti, che sono lì che cercano di avere un seggio dal Partito Democratico alle prossime elezioni politiche, non possono dire queste cose, perché se fanno il telegramma alla Nord Corea, cioè la fabbrica di mostri, e poi non gli danno il seggio in Parlamento la prossima volta. Ma non è che non possono, è che è una follia, Rizzo. È chiaro. David, scusami, ti dico solo una cosa: quello lì è un dittatore sanguinario. Benissimo, allora adesso quelli che stanno in Arabia Saudita, il figlio tutto ciccione lì, che con non parliamo dell'estetica. Ma no, ma io avete quel figlio, però un po' Rizzo, la critica all'estetica del potere, quella però, che ha fatto cadere Berlusconi. Però io devo dire la verità, Rizzo, lei assomiglia un po' a quei dittatori, un po' così, un po'. Ma Davide, che mi conosce particolarmente bene, sa che io non farei male a una mosca, a meno che proprio mi vengano sotto. Ecco, bravo, appunto. È diverso. Siccome invece questo dittatore sanguinario maledetto non pace all'anima sua, che per fortuna è morto e che adesso voleva il figlio. Comunque io preferisco Scilipoti e Sara Tommasi, Scilipoti e Sara Tommasi alla Corea del Nord, ma eccetera. Tutta la vita anch'io. Ma c'entra. Le forme della Sara Tommasi con questa roba. Parlando magari di una giusta critica al sistema bancario, no, questa giusta critica viene presentata da personaggi, a mio avviso, impresentabili, e quindi quella stessa critica viene cancellata. Sì. Non esagero, ma è congeniale. Lei non vuole arrivare alle estreme conseguenze del suo ragionamento, ok? Gliela dico tutta, Rizzo. Io preferisco Scilipoti, Laminetti, financo l'ex ministro Romano, perché financo l'ex ministro Romano, perché poi siamo in democrazia, c'è una magistratura, ci sono pesi e contrapesi, e questi vengono mandati a casa. Si può prendere il peggio del berlusconismo, si può criticare il capitale e questa società avendo anche un'altra idea di società. Mica per criticare questa società dobbiamo fare delle cose straordinarie, ma dalla Corea del Nord, non viene nessun tipo di idea alla società. Dalla Corea del Nord viene il fatto che per 40 anni sono rimasti indipendenti da questo. Signor Tommasi? Sì. Buonasera, la Zanzara, come sta? Ah, la zanzara di Sole 24 Ore? Sì, come sta? La disturbiamo? Bene, lei? Che sta facendo? Che sta facendo? Sto prendendo un aperitivo. Dove? Dove? Dove siamo qui? Dove siete? A Milano. All'Enoteca L'Umbra del Vin. Ah, bene, bene. Brava. Ma mi dica una cosa, ma si tratta bene la signora Tommasi, si tratta bene la signora Tommasi, non si fa mancare niente. Non cagli che c'è di champagne, la faccia vostra. Non si fa mancare niente, signora Tommasi. La crisi, ma perché? Champagne. Con un tipo eccezionale di uno charme, un uomo veramente interessante. Un uomo interessante, ma mi piacciono gli Agé. Ah, un po' Agé. Cioè, è una serata in cui comunque c'è da lavorare, no? Una seta un ton, ha capito? Sì. E stiamo discutendo delle mie cose di lavoro, quindi. Sì, delle sue cose di lavoro, abbiamo capito, sì, certo. Signora Tommasi. Senta, signora Sara Tommasi, voglio capire. Adesso stiamo degustando il vino, perché noi siamo dei grandi degustatori di buon vino. Bene, e consiglio bene a tutti di bere solo bene, perché bere male, meglio non bere, meglio una bicchiere d'acqua. È d'accordo lei, signor Rizzo, dei comunisti Sinistra Popolare, è d'accordo con quello che dice la signora Tommasi? Assolutamente sì. Bisogna gustare le bombe. Vale la pena, perché bere male? Il problema è che ad esempio l'Europa ci fa bere male. Vabbè, quello è un altro male anche l'olio d'oliva. È un altro discorso. Hanno fatto l'ultima cosa che è stata fatta dall'Europa ad aprile. È una normativa che prevede. Ma la normativa adesso, Rizzo, la normativa. Ci vuole affossare tutto. Ti faranno bere l'olio extravergine che fa schifo e scriveranno sopra che è extravergine. Questo lo fa l'Europa con una direttiva del 1 aprile del 2001. Allora, però voglio chiedere ancora una cosa, signora Tommasi, se davvero ha deciso di scendere in politica col signor Scilipoti? Sì, assolutamente. Ormai è deciso. Ma col signor Marra lei ha litigato, mi sembra di capire, o no? No. O è lui che ha litigato con Marra? Tutti i soldi che mi dà, ma che scherzo. Ma lui smentisce, lui nega. Ah no, è logico, cosa deve dire? Un uomo non si fa mai pregare, no? No, certo. E poi non andiamo a rivelare questi segreti istituzionali. Istituzionali adesso, istituzionali. I nostri accordi. La 100.000 è scattata. C'è stata una separazione con Scilipoti semplicemente perché l'onorevole Scilipoti non condivideva alcune idee di Marra, come la denuncia. Io ho una proposta da Però adesso il fatto che sono comunque si stimano l'un l'altro e sono amici. Certo, e adesso che l'onorevole stia pensando di candidarmi in politica, io lo trovo un grande gesto di intelligenza, d'amore, rispetto verso la mia personalità, verso la mia figura. Quindi sono veramente onorata. Sì. Onorata, mi sento un grande ardore dentro di dimostrare l'ardore non lo mettevamo in dubbio. Scusi. Sento un grande ardore dentro, molto bene. Sento un grande ardore dentro. Non è male. Anch'io ho una grande voglia di esprimere quello che sento e di dare tutto quanto alla politica. Anch'io, signora Tommasi, quando la sento parlare, sento un grande ardore dentro. Sente un grande ardore. Bene, allora siamo in due. Devo venire a smorzare gli animi, allora. Beh, adesso questo io non lo farei proprio immediatamente, perché magari comunque. Senta, ma la serata con abbandono il sesso per la politica. Abbandono, ma guardi che le due cose spesso vanno insieme, sesso e politica, signora Tommasi, Su questo non ci piove, però comunque lascio la mia vecchia immagine, però un'immagine più castigata. Adesso mi vedete, ma che castigata, mi vedete con la monaca di Monza. Ma che castigata, se dieci giorni fa stava senza mutande. Non posso entrare in Parlamento smutandata. Ma guardi che c'è stata Cicciolina pure, c'è stata Cicciolina in Parlamento. C'è stata Cicciolina, io seguo le orme, però mi darò un contegno, dai. Ma che contegno, se lei si dà un contegno è tutto finito. Vado a Parigi, vado un po' a studiare com'è la situazione parisienne e poi torno con delle avant-garde da mostrare a tutta Italia. Senta, signora Tommasi, se lei entra in Parlamento lo sa che è tutto finito. Sì, diciamo la verità, Parenzo, è già tutto finito adesso. Ma se lei dovesse entrare, che distrugge i sogni di una bambina, come no, è tutto finito. No, è tutto. Ma sarebbe in discussione la democrazia come grande sistema, però comunque va benissimo, cioè, no, per carità, abbiamo la pubblicità, poi ci spiega come prosegue la serata con questa persona Agé. Sara Tommasi sta bevendo un aperitivo a Milano insieme ad una misteriosa persona che lei ha definito Agé. Eccoci, abbiamo il traffico tra pochissimo, anzi no, l'abbiamo già avuto, mi ero distratto, ancora Marco Rizzo con noi, comunisti, Sinistra Popolare, caduto Parenzo, vabbè, insomma, succede di tutto, Un attimo solo, Rizzo, abbiamo Claudio da Milano, buonasera. Pronto? Dica. Sì, buonasera. Allora, io appartengo a una categoria tanto cara a Parenzo, i tassisti. Sì, ma guardi, è cara a tutti, soprattutto a Parenzo che prende i taxi dalla mattina alla sera. Infatti, che parla sempre molto bene di noi. Io chiamavo a proposito delle liberalizzazioni e della chiamata del mio collega di Napoli di ieri sera. Sì. Per come la vedo io, una liberalizzazione dovrebbe offrire la concorrenza, cioè se c'è un monopolio in un campo, la liberalizzazione dovrebbe offrire la possibilità ad altri di offrire lo stesso prodotto a prezzi inferiori o di dare la possibilità al cliente di scegliere. Sì. Ma a Milano il sindaco Albertini nel 2005 fece fare un sondaggio dal Politecnico dove risultò che Milano con 700-800 macchine in meno potrebbe comunque sostenere l'impatto. Io non so se voi sappiate dell'esistenza di questo studio fatto al Politecnico. Vabbè, allora? Niente, allora... Cioè, ci sono già abbastanza taxi a Milano, dice lei. Poi, se c'è il comune che non riesce e ci vogliono delle licenze, io questo non lo so. Però Milano, io parlo per Milano perché sono di Milano e conosco la realtà di Milano. Pronto? Chi è? Chi è lei? Lei mi ha chiamato. Chi è? Pronto? Vabbè, Claudio. Sì. E poi lei ieri ha detto una cosa inesatta sulla compravendita delle licenze. È stata regolarizzata dalla finanza. Sì, sì, lo so, certo. Cioè noi quando vendiamo una licenza paghiamo le tasse sulla plusvalenza. Beh, certo, ma non penso, non ho mai detto che è qualcosa che abbiamo. Ieri lei ha detto che è una cosa che non è molto regolare la compravendita, perché non ho detto che non è regolare, non pensavo mica che la cosa venisse in nero, per carità, assolutamente no. È vero che appartengono al Comune di Milano, però la compravendita di licenze è stata regolarizzata 5-6 anni fa, infatti adesso paghiamo le tasse. Sì, ma non dovrebbe esistere questa roba qui. Lei ha capito che non dovrebbe esistere la licenza. Certo. È una concessione, lei ha ragione, è una stortura che ci portiamo dietro da anni e che dovrebbe essere via via eliminata. Però chi come me ha comprato 20 anni fa non ha usufruito dei beni ammortizzabili, non ha mai scaricato niente, mentre adesso lo fanno, però quando vengono dovrò pagare le tasse sulla plusvalenza. Sì, quindi d'accordo, ma questi io sono uno di quelli della vecchia guardia che rimarrà fregato da questa normativa qui. Sì, ma io adesso questo qua entriamo in un dettaglio che non ci compete. Il punto fondamentale è che si dovrebbe uscire dalla logica della licenza pagata molto cara. Io sono solo di un'idea che la liberalizzazione, se viene fatta selvaggia, porterà alla chiusura di molti rami di molte aziende. Adesso io parlo dei tassisti perché io ne sono dentro e conosco la realtà, però anche di tante altre cose. Va bene, grazie. Parenzo è tornato? Okay. Davide, chi avevi dato il telefono? Certo che c'è. Come chi l'ha dato il telefono? Mi è caduta la batteria, il telefono per terra? Sì. Si era disintegrata quasi la batteria, poi soltanto un miracolo di Hanukkah ha riattivato. Sai cos'è Hanukkah, no? No. Come, è una festa ebraica che c'è in questi giorni. E allora? È la festa delle luci, si chiama. Sì. Mi è caduto il telefono, sì, con batteria e tutto, e sono riuscito a ripristinare il collegamento. Sì. E quindi siamo tornati attivi come prima. Ringraziamo il leader. Posso della... dire una cosa sui tassisti? Sì, Rizzo, dica. No, i tassisti non hanno assolutamente torto. Nel senso che in questi anni di sbornie liberalizzatrici, Non c'è stato niente qua. Volute anche dalla sinistra, volute anche da una finta sinistra. Alla fine se la sono presa, penso a Bersani e tutta l'altra banda, con i tassisti e i benzinai, come se i problemi dell'Italia fossero dei tassisti e dei benzinai. Mentre invece i notai, gli avvocati, i petrolieri, quelli non li tocca nessuno. Però invece i tassisti, sembra che le colpe dell'Italia fossero dei tassisti. Sapete come finisce con la vicenda dei taxi? Nelle grandi città daranno tutto in mano a qualche grosso gruppo finanziario che assumerà dei disperati, gli daranno 900 euro al giorno. Cioè qualche extracomunitario, dice lei. Esatto, li faranno trotterellare per 14 ore, per cui avremo i taxi sporchi, avremo molto più sfruttamento, avremo un servizio peggiore, qualcuno ci guadagnerà moltissimo e tanti padri di famiglia, per bene che oggi magari rasentano le 2.000 euro al mese facendo anche l'evasione fiscale, andranno a casa. Tra, ecco, sarà, perché le dico che sono comunista? Perché sto dalla parte degli operai e dei lavoratori, ma sto anche da quella parte lì, perché queste persone qua non sono queste. Ma non c'è bisogno di essere comunisti, ma non c'è bisogno di essere comunisti per dire che magari i tassisti i taxi non devono essere liberalizzati. La sinistra in questi 10 anni è stata contro i tassisti, contro i benzinai, contro le categorie. Ma contro, diciamo, magari ha voluto portare qualche correttivo in un servizio, non significa essere contro. Ma perché? Ma chi è che ha bisogno di tutti questi taxi? Quelli appunto, no? Quelli appunto che vivono nell'elite, al centro delle grandi città, che poi i problemi sono su Roma e su Milano sostanzialmente, che vogliono arrivare alla fermata del taxi e trovare immediatamente il taxi. Addirittura. Ma non è esattamente mia così. Mia madre, che ha 80 anni e fa la pensionata a Torino, no? Il taxi l'avrà preso 3 volte in tutta la sua vita. Vabbè, ho capito, ma che c'entra questo? Se uno come Parenzo, o magari uno come me, il taxi lo prende tutti i giorni, lo prende tante volte, vorrebbe la macchina. E dunque lei dice che è un problema che riguarda l'elite, che vorrebbero il taxi a 2 euro, a 2 euro sotto casa subito, invece di un servizio organizzato. Se ci fossero più taxi, anche la mamma. Ci sarebbero dei disperati che guidano i taxi. No, anche la mamma del signor Rizzo, ad esempio, potrebbe prendere il taxi e andare a farsi le visite. Ma la mamma del signor Rizzo, quando prende il taxi, fa la prenotazione, lo prende talmente poche volte, poi prende l'autobus, come prendono tutti gli altri. Ma anch'io prendo la metropolitana, l'autobus, che c'entra? È un problema del paese, non solo i taxi. Ma il problema del paese sono i taxisti e i benzinai, vuol dire che abbiamo sbagliato. Cioè, oggi ci sono i signori, solo, anche i signori delle agenzie di rating assieme ai nostri amici che governano, tutta la cricca neocarolingia, la chiamo io, hanno fatto solo con l'aumento dei tassi di interesse obbligatorio per l'Italia, perché è la sorta della guida Michelin, no? Sono la guida Michelin delle nazioni, queste agenzie di rating. Hanno detto l'Italia non va bene, i tassi di interesse del debito pubblico sono passati dall'1,5 al 7 e il 5%, il 5% di aumento sui tassi di interesse in un debito pubblico che rasenta i 2.000 miliardi vuol dire 100 miliardi, cioè noi paghiamo tutta questa manovra. Quanto prende lei di vitalizio, Rizzo? Sono curioso. Io prendo 4.950 euro. E lo prendo, visto che ci siamo arrivati, parliamo anche di questo. Lo prendo dopo 20 anni di contribuzione come parlamentare italiano, parlamentare europeo. Ma lei già lo prende, il vitalizio? Sì. Io ho 36 anni di lavoro. 36 anni di lavoro, che vuol dire? 36 anni, questo mi sembra esagerato. 30... No, io glielo porto a vedere. Per una volta. No, 36 anni, compreso il lavoro precedente. Che devo fare? Se c'ho 16, c'ho 19. No, ma lasci perdere quello dell'INPS, quello del Parlamento. Quante legislature ha fatto? 20, e c'ho 4 legislature, devo spararmi. No, ma chi ha detto che si deve sparare? No, però lei prende un vitalizio e pensa che sia giusto questo vitalizio? Io credo che il vitalizio non sia giusto. Non sia giusto perlomeno nei termini in cui è stato usato finora, perché c'era gente faceva. Cioè lei è un privilegiato, altro che operaio. Nel passato c'era gente che faceva un giorno e si pigliava il vitalizio. Lei si considera all'avanguardia, diciamo? Sto a mezzo da questo punto di vista, perché 20 anni non sono un giorno. No, ma si considera all'avanguardia. No, mi considero, diciamo, fortunato, ma infatti io privilegiato, sono privilegiato. Certamente sì, per quello, però attenzione, io ho lavorato per 16 anni di continuo, vero, con l'INPS, adesso ho lavorato per 20 anni facendo, ho 20 anni di contribuzione, che devo fare? Sì, 20 anni di contribuzione che danno una pensione. Con un rendimento molto più elevato degli altri. Assolutamente. Sì, poi ad esempio nel mio partito noi per quello che vale la gente... Cioè si potrebbero modificare anche i suoi di vitalizi, no? Certo. Consideri che ad esempio nel nostro partito se noi eleggeremo... Quale partito, scusi? Quello per cui mi ha chiamato. Il partito per cui era stato eletto, no. Comunisti Sinistra Popolare. Esatto, in Comunisti Sinistra Popolare, se uno viene eletto prende lo stipendio di un lavoratore in trasferta, se non è di Roma. Stop. Vabbè, ma quando verrete eletti in qualcosa, insomma, passerà del tempo. Quando verrete eletti? Ma le ripeto. È una cosa molto difficile, lei lo sa, no? Anche perché voi non vi alleate con nessuno. Bravo, esattamente. Sappiamo che questa politica oggi faccia schifo. È difficile immaginare che voi prendete il 5%. 51%. Cioè io anzi spero di no. Ai ai ai, salveremmo solo Davide, che lo conosciamo. Quando saremo sull'alto dei carri armati diremo: Parenzo, quello lì no, lasciatelo stare. Rizzo, ma perché lei non rinuncia, davvero comunista, non rinuncia a una parte del suo vitalizio? Ma davvero comunista, faccia una mossa da comunista. Ma io rinuncio già tutti i mesi, una ampia parte, perché il finanziamento del nostro partito avviene da quello è perché, che vuol dire? Rinuncio, mica me li sto a magnare, quelli lì li do al partito. Ho capito. Non entrano nella cassa della signora Rizzo, insomma, questo è. Ho capito, rinunci, faccia una battaglia. Faccia una battaglia per l'eliminazione del vitalizio, che ne so. Cioè... Ma noi abbiamo fatto una battaglia. No, magari secondo lei è giusto il vitalizio. Ci sono delle battaglie finte anche che vengono fatte, ad esempio quelle. Togliamo tutto, se si toglie tutto alla fine vanno solo i ricchi in Parlamento. Oppure sarà Tommasi, politica... oppure sarà Tommasi. Beh, questo non è neanche molto originale, perché in questi anni sono andate, diciamo, persone che, come si può dire, avevano le splendide qualità della Sara Tommasi. C'erano comunque lei scusi, Arizzo, me lo faccia dire, lei che io prende 4.000... Io sono un deputato che è stato sempre votato. Sì, però me lo faccia dire, lei prende 4.900 euro di vitalizio per 20 anni in Parlamento, 16, quello che è, 4 legislature, 20 anni tra Parlamento italiano e Parlamento europeo, 4 legislature, e mi fa l'elogio dalla Corea del Nord. Rizzo, abbia pazienza. Ma sa quanto mi resta in tasca dopo che do il partito? Mi restano in tasca 2.200 euro, quindi non ho. Vabbè, ho capito, ma lei decide lei di darle al partito, non è che sia un. Certo, ma cosa posso ho capito, fare? Ma non è che lo obbligano. Fortunatamente l'hanno cambiato. Io posso parlare per me, ad esempio, io sono stato sempre eletto, non sono mai stato nominato. La legge elettorale è cambiata nel 2006. Stato eletto l'ultima volta nel 2004, ma non è per quello, perché lei per questioni politiche, non perché lei fosse contrario. Per me è un genio, Rizzo. Per me Rizzo è un genio, perché ti... Un attimo, signor Tommasi, per concludere. Sì? Signor Tommasi? Sì? Sì, ma non lo so, che non sei tu. Servizio di segreteria telefonica. Ma non risponde. Perché non risponde a Tommasi? Non risponde. Vabbè. Perché sono un genio? Perché è un genio? Lei è un genio, perché difende la Corea del Nord... E poi vive nello Stato borghese con giustamente i contributi che ha pagato, i suoi 4.000 euro, un genio totale, un genio. Ma non è un problema di genio, David, sai benissimo che vivo molto sobriamente, perché ma lo tra l'altro so. Una bella parte dei miei del grano lo do al partito, e quindi come si può dire, so anche... No, perché la sua è una chiara posizione semplicemente intellettuale, non ci crede neanche lei, perché non si può difendere quella mummia comunista lì. No, questo non lo puoi dire, David, perché lo sai benissimo che mi faccio un mazzo terribile. No, ho detto che è una provocazione intellettuale la tua, ma va benissimo. Mi faccio un mazzo terribile in lungo e in largo per l'Italia per propagandare di vendere il ghiaccio al Polo Nord, perché con la comunicazione di massa che c'è oggi... No, ma perché sostenere il comunismo oggi ce ne vuole, Rizzo, perché è molto... Sa qual è il grande problema dei comunisti oggi in Italia? Che ci sono tanti finto comunisti. Ma chi sarebbero? Quindi, chi sarebbero per esempio? Ma sono ad esempio quelli che le faccio degli esempi. Vendola. Ma Vendola fortunatamente non è neanche più comunista. Ha detto che non lo è più. Viva Dio. Il problema nostro è che vendiamo il pesce fresco con un carretto, con un simbolo in una via. Poi nell'altra strada c'è un altro carretto con lo stesso simbolo e dicono anche noi vendiamo il pesce, invece il pesce marcio, perché magari hanno votato la guerra. Adesso non mi dirà guerra. Che l'unico comunista è rimasto lei, Rizzo, su. Hanno votato la guerra e hanno detto che erano contro la guerra. Ma lasciamo perdere, hanno non è che l'unico comunista è rimasto lei. Guardi, l'unico che ha mandato quel telegramma che suscita tanto casino sono io. Allora che vuol dire questo? perché quel telegramma lì era un po' la cartina di tornasole, perché tanto che si cagano tutti sotto a dire una parola in più, il sottoscritto l'ha fatto. Ho avuto le palle per mandare un telegramma alla Corea del Nord. Usiamo gli attributi, ecco, un po' più. Usiamo italiani. Gli attributi. Allora, oggi Michele Serra sull'Amaca scrive, oltre a riprodurre il suo telegramma, dunque ha avuto anche l'onore di finire. Michele Serra è uno di quei servetti, no, che aveva inventato la polemica a sinistra per sciogliere il PC. Benissimo, vabbè, adesso sappiamo che Michele Serra, andiamo avanti. Allora, i servetti per sciogliere il PC, abbia pazienza, su. Sì, allora. Michele Serra è uno di quelli che voleva il nuovo. Adesso poi ho capito, ma voler sciogliere il PC non è che sia stato un crimine. È un crimine. fine politico. Questo comunicato ufficiale, apparso ieri sul sito dei comunisti Sinistra Popolare, ha avuto meritata fortuna tra i numerosi fan del paranormale. Forse per un disguido o per un malevolo boicottaggio, il comunicato è apparso monco della sua seconda parte, anch'essa molto rilevante, che qui riportiamo. Il segretario Rizzo e il responsabile esteri Galdi sono altresì vicini al popolo plutoniano del giorno del sacro Hong, in cui a 1000 anni dalla sua morte in battaglia si celebra la reincarnazione del generalissimo Kipga in un cavallo fosforescente. Invita i fedeli a visitare il monastero virtuale di Ammon nella galassia di Popelin, dove è possibile vedere lacrimare una statua della beata Cattarinetta, figlia di Ponk, re di Ork, destinata a redimere la Via Lattea prima che si avveri il grande malefizio. Beh, è divertente, chissà se il Serra lavora così sull'Oden di Monti o sta zitto. Vabbè, che vuol dire quello? Mi piacerebbe saperlo. Ho sentito, ad esempio, Benigni, un servetto, ho sentito il sinistrorso Benigni l'altra sera, no? Sì, sì. Da Fiorello. Che intanto si era attardato, pensava ancora che ci fosse Berlusconi perché ha parlato male di Berlusconi. Sì, questo è vero. E Berlusconi non governava più. E poi si è messo a fare tutto un panegirico. Vabbè, insomma, Serra un servetto. E lo è stato alla grande quando c'era la sciogliere del Partito Comunista. C'era tutta un'intelligenza che voleva dimostrarci che le idee erano il vecchio, che il nuovo era quello che avanzava. Vabbè. Adesso il nuovo è quello che c'è, la precarietà. Vabbè, lei non sopporta, l'ironia, questa presa per il culo. Di sinistra, quelli di destra. Quelli finti di sinistra, dunque un finto di sinistra. Di sinistra non li sopporto. Serra un finto di sinistra. Ce n'è pieno. Pieno. Grazie Marco Rizzo, un abbraccio. A voi. Eccoci, 800240024, Gianluca dalla provincia di Bari, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo dire a proposito del... Non sento niente, Paolo da Roma, buonasera. Pronto? Paolo, dica. Eccomi qui, sono un pochino tardi, vedo che il signor Rizzo è andato, sicuramente sarà ascoltando. Buonasera intanto, complimenti. Non ho capito nulla, scusi, cosa ha detto? Dunque, ho detto soltanto che mi dispiace che il signor Rizzo non sia ancora in linea. Ma comunque, vabbè, è uguale, dica quello che deve dire. Ecco, niente, l'unica cosa è che io, a differenza sua, in Corea del Nord a Pyongyang ci sono stato, sì, ai tempi di Kim Il-sung, dove c'era Kim Song-il, sì, e adesso c'è Kim Jong-un. Sì. Allora, a quei tempi dove c'era il nonno di questo attuale, sì, mi sono anche preso la briga di leggere un pochettino quella che è la teoria dell'autosufficienza del regime nordcoreano, sì, in inglese, e lì c'è scritto che loro non hanno bisogno di niente, però per giustificare noi, alcuni stranieri, trattati benissimo fra l'altro, che andavamo lì ad insegnare, io insegnavo roba di telecomunicazione agli ingegneri, allora? Che tra l'altro la mattina era un gruppo e il pomeriggio era un altro gruppo perché si scambiavano dalle parete per strada, a preparare le cose, ecco, c'era scritto che praticamente loro comunque chiamano la gente dai paesi sviluppati non perché loro hanno bisogno di sì, la gente che viene dal capitalismo, ma per sfruttarli ai fini della loro causa. Poi parlare con la gente non vorrei dirlo, però mi chiese un rappresentante del ministro degli esteri, sì, però adesso Paolo non ci può raccontare tutta la sua esperienza con la Corea del Nord, no. Il succo del ragionamento qual è? Semplicemente che mi chiedevano qual era il cosa pensassi di qui il regime, ovviamente non potevo dire molto, ho detto beh, magari un'opposizione tanto per supportare o per stimolare, no? Ho detto noi non ne abbiamo bisogno perché l'unico partito che c'è fa già tutto e non c'è bisogno di niente. E gli operai li vedevo la mattina, sì, siccome parlava di operai e gli ha risposto a lei, sì, dicendo che stava dicendo fesserie su quello che succedeva in Corea del Nord, beh, li vedevo io gli operai andare in fila per tre con la bandiera, con la musichetta, sì, dietro, e andare sul posto di lavoro. Io non so se lui pensa che questo sia applicabile, lo proveremo come CGL. Vale, guardi Paolo, la ringrazio di questo piccolo spaccato di quella che era la vita in Corea del Nord, ma non avevamo dubbi che le cose fossero così. Grazie a Paolo da Roma. Senti, è il vento che arriva dal sud, la forza che hai dentro te, la luce negli occhi tuoi. Eccoci con Gianfranco Miccichè ai microfoni della Zanzara. Come sta con l'inno di Forza del Sud? Dovete fare uno nuovo qua, eh? Come? Che Non dovete fare quello di Grande Sud? Facciamo Grande Sud, infatti Forza del Sud era quello che faceva riferimento a noi soltanto, oggi appunto con la Poli Bortone abbiamo creato Grande Sud. Questo lo sappiamo, dovete fare un nuovo inno oppure resta questo? Vediamo. Vediamo. Vi presenterete anche a Sanremo? Ma che città Sanremo, scusa adesso? Chi è Parenzo? C'è l'Api di E come no, certo che c'è Parenzo. Come va Parenzo? Ti sta chiedendo come va? Va molto bene, un abbraccio fortissimo. Michichè, dove si trova lei? Gianfranco Michichè, leader di Grande Sud. Sono ancora a Roma. È ancora a Roma, purtroppo, dice lei, no? Lei è come quei leghisti al contrario del Sud che dicono sono ancora a Roma, peccato non essere a Palermo, no? No, io vorrei essere a Palermo, i leghisti poi vanno appunto in altre zone. In altre zone, certo. Senta, ma oggi come ha votato lei sulla questione di Romano? Ma il voto era segreto, che vergogna, non si domandano così. Ma come no, si domandano. Ma soprattutto vista la sua intimità col signor Romano, volevo chiedergli questa cosa. Io non ne ho con nessuno. No, appunto, sì, sicuramente non con Romano. Vabbè, con Romano. Come ha votato, Michichè, ce lo dica. No, non lo dico. Non si dice. Noi abbiamo una linea di garantismo in assoluto. Sì. Che difficilmente ci permette. Anche Grande Sud ce l'ha questa linea di garantismo. Votare a favore dell'arresto di qualcuno. Beh, in questo caso non c'è l'arresto, però. Ma che fate parlare? Sì. Sì. L'uso delle intercettazioni non è un arresto, ovviamente qualcuno di noi può avere votato secondo coscienza, noi non obblighiamo nessuno su queste cose. Io ho una linea di garantismo che porto fino alle estreme conseguenze, finché si tratta di garantismo puro, vero. Sul fatto delle intercettazioni, l'uso delle intercettazioni è talmente abuso, più che uso, che comunque mi rende molto difficile. Ha votato contro questa cosa. Però, qua. Scusami, l'obiezione fondamentale su questa cosa. Sì, ma non c'è da fare. Scusa, non c'è da fare. Di logica. Sì, ma non c'è da fare l'obiezione su questa cosa, altrimenti restiamo sulla vicenda di Romano. No, per spiegare a chi ci ascolta, oggi i parlamentari hanno votato sulla possibilità di utilizzo delle intercettazioni. Allora, per fortuna c'è stato un voto positivo, io dico, ma per fortuna anche di Romano, perché Romano così. Ma veramente Romano non è così contento di questa cosa qua. Comunque, sbaglia, perché invece se io fossi un imputato con un reato. Parenzo, posso? Sì. Io vorrei che venissero utilizzate le intercettazioni se sono innocente. Quello che tu dici, Parenzo, scusami, quello che tu dici è assolutamente corretto. Oh. Quello che rende poi alla fine, purtroppo, non facilmente accettabile quello che è l'uso scorretto che si è fatto delle intercettazioni. Per cui oggi, quando si chiede, viene fuori non tanto l'analisi sulle intercettazioni di Romano, se è giusto che vengano utilizzate o meno, ma sulle intercettazioni, secondo me, è necessario che si dia un segnale alle procure italiane che le intercettazioni sono uno strumento straordinario attraverso il quale è possibile scoprire una marea di magagne incredibili, ma devono essere usate così come la legge ti consente. E il voto in Parlamento può dare anche un segnale di questo tipo. Senta, invece lei sulla vicenda Cosentino ci può dire come voterà? Ma che palle, ma mi avete chiamato per fare. Quindi sono vostri segreti di coscienza su cui ragioneremo. Punto. Ma no, ma il paese deve sapere. Se il Parlamento decide di far votare segretamente, il Presidente della Camera decide. Ma poi ci sono delle persone che dicono come votano, cioè non è che ci sono problemi. Bravo, fanno bene a dirlo. Io forse lo dirò pure quando dopo che avrò votato. Primo non lo posso esattamente dire perché non lo so. Però mi sembra di capire che, dato il suo garantismo, dovrebbe votare contro l'arresto di Cosentino, no? Io è garantismo, non è garantismo peloso, non significa garantire i delinquenti, significa garantire gli innocenti. Che perché è un delinquente Cosentino? No, ripeto, il mio garantismo, come dice col suo garantismo, il mio è un garantismo vero. E siccome c'è un abuso da parte di alcune procure, spesso e volentieri si sono colpiti degli innocenti. Io ho il caso personalmente ed è forte, che mi ha personalmente colpito, dell'onorevole Gaspare Giudici, che io sapevo essere assolutamente innocente. Bene, è stato assolto ovviamente in maniera totale sin dal primo grado, però è morto. Però 8 anni di processo lo hanno fatto morire, letteralmente morire, cioè abbiamo svolto i funerali. E allora, se mi permettete, quando si dice che uno è delinquente perché lo dicono prima, Io voglio essere sempre convinto che perché si dica che uno è delinquente ci devono ma essere. Ma servono gli arresti a questi mesi, così a distanza di così tanti mesi dalla prima richiesta, secondo lei? Assolutamente no. Senta, allora andiamo su cose un po' più leggere, che dice, no, amici che, no, gli arresti. È Natale. Facciamo una ma cosa. Tu lo sai, Parenzo, che... Arrivederci, tanti auguri. No, come? Come arrivederci? Speriamo in un anno migliore di questo. Vabbè, adesso non è che vogliamo parlare così di auguri generici. Parenzo, tu sai che ci sono tre fratelli Micichè, no? Certo. Lei parla senza sapere che dice, sono quattro. Quattro fratelli, scusi, quattro, mi sono sbagliato. Io ne conosco due. No, tre fratelli volevo dire, tre oltre a... Altri tre. A Gianfranco, questo volevo dire. Ma altri sono tre. Tutti, io sono sicuramente il peggiore. Lei è il peggiore? Sì, assolutamente. Cioè, la pecora nera è lei. Allora, uno lavora, Gaetano Micichè, si conosce, a Banca Intesa, sì. Eccetera, giusto? Cioè, quello più, come si può dire, più esperto, come si dice in siciliano? Questo è intanto il primogenito. Il testone, diciamo. Noi quello. Noi lo rispettiamo più degli altri perché siamo siciliani e abbiamo delle regole. Lo rispettiamo, dopodiché è certamente una persona che ha dimostrato di essere di capacità e intelligenza. Superiori anche agli altri, no? Superiore sicuramente alla media. E quindi per noi fratelli è un piacere poter rispettare. E non c'è dubbio. Una persona così intelligente e così brava. Poi c'è lei. Com'è l'ordine? Com'è? Signor Gaetano prima, no? Poi Guglielmo Gianfranco Gabriele. Allora, Guglielmo è vicepresidente del Palermo? È vicepresidente del Palermo. A proposito, ha visto il signor Zamparini ha fatto fuori un altro Micichè? 47 allenatori. 46. Lei è orgoglioso di questo? No, però siccome io guardo i risultati finali, il Palermo è stato tutta la vita a combattere per la retrocessione. Sì. Zamparini lo ha preso che era in Serie B, lo ha portato in Serie A. Lottiamo sempre per poter andare in Coppa UEFA, come dire, quali siano gli strumenti? Chi se ne frega, dice lei. Che sono poco discutibili, nel senso che Zamparini garantisce alla città di Palermo una squadra divertente. E poi con i soldi suoi ci fa quello che vuole. No, ma voglio dire, al di là dei soldi suoi, garantisce ai palermitani una squadra che batta le Messi, che batte l'Inter, che batte il Milan. Dunque, queste contestazioni, lei dice, queste contestazioni sono assurde perché, insomma, no, dopo Zamparini che c'è? Nulla. Io vorrei capire chi lo contesta, che cosa spera che succeda. Mandiamo via Zamparini, torniamo in Serie C come abbiamo fatto per gli ultimi 30 anni, non c'è problema. Dunque i palermitani devono sopportare le mattane di Zamparini, questa è la realtà. Non sopporto niente, che c'entrano quelli? Pare che licenzia ai palermitani, licenzia l'allenatore. Appunto. Di farlo, se facendo così ci garantisce sempre di lottare per la Coppa UEFA e l'anno scorso per esempio per la Coppa dei Campioni, vuol dire che comunque va bene così. Per cui mi sembrano, ma siccome bisogna protestare sempre, giusto? Sempre protestare. La protesta che vita è. Proteste inutili, dice lei, no? Proteste inutili. Le proteste non sono mai inutili. Vabbè, oddio. Non portano a nessuna conseguenza, per fortuna, perché quelli che protestano per la TAV è una protesta che non è inutile, è addirittura dannosa. Ci sono delle proteste sacrosante. Caso sono dannose, quelle dei tifosi del Palermo sono un po' dannose. No, quelle dei tifosi del Palermo dannose non sono, perché per fortuna Zamparini continua a fare quello che dice. Scusi un attimo, ma fare vicepresidente, suo fratello, fare vicepresidente Zamparini praticamente non fa nulla, perché Zamparini è un padre padrone che domina totalmente su tutto. Che ruolo? Intervistate lui, glielo direte, io non lo so di cosa. Il fratello di Micichè. Eccoci, 800 24 0024. Siamo qui. Non più batteria quasi, maestro. Sì, stasera è proprio un disastro, telefoni che non ci sono, collegamenti che non esistono, batterie che se ne vanno, cioè proprio l'ultima ruota del carro. Gianfranco Micichè, leader di Grande Sud in collegamento da Roma. Mi chiami altissimo. Micichè, c'è ancora? Ci sono ancora. In questo momento per parlare con voi non sto vedendo la partita del Palermo. La informo io, 0-0, non si preoccupi. 0-0 dopo 2-3 minuti. Ragione, no? Dopo 2-3 minuti non c'è problema. Ho capito, sto a vedere quanto mi tenete ancora al telefono. No, 5 minuti, non si preoccupi. Siamo quasi in conclusione, 5 minuti così. Allora, onorevole. Parenzo l'altro giorno in una trasmissione ha fatto Dove? Frega del Molise, pazzesco. Che cadeva, ah sì, me lo ricordo, chi se ne frega del Molise, sì, dove voi siete fuori. Ho sbagliato Parenzo, l'ho fatto sbagliare. Dove voi siete forti, no? In Molise. Ma sì, lo ripeto ancora, chi siete con tutti i problemi che ci sono? Dove voi siete forti elettoralmente in Molise, no? Per dove questo le... si è piccato. Siamo ritrovati forti, senza voglia, è la prima esperienza che facciamo in Molise, sì, è stata un'esperienza molto ma molto positiva. Senta, ma il PDL esiste ancora? Il Molise. Ma. Come anche, ma? Anche questo bisognerebbe chiederlo a loro. Certamente secondo lei che c'è stato fino all'altro giorno enorme difficoltà, questo è sicuro. Non riesco, io vedo che in tutte le regioni dove noi siamo interessati alle prossime amministrative il PD sì, non riesce a dare segni di se ci si è battuto un colpo, questo colpo non arriva. Non arriva, non arriva. Vabbè, però sono sempre lì, i sondaggi esistono, sono... come no, certo. Cioè, voglio dire, non è che è proprio il nulla, ma si sta sciogliendo, che sta facendo? Si sta... Non ho idea, nel senso che, ripeto, se continuano così, secondo me non hanno grande speranza per il futuro. Spero che cambi, anche perché, come dire, un PDL funzionante, penso che poi alla fine serva tutto il centrodestra. E Berlusconi come lo vede in questo periodo? Sospiro. Secondo me contentissimo non deve essere. No, contentissimo non è. Però magari no, è un po' liberato, non lo vedo un po' liberato. Però, allora, posso dire una cosa? Io facevo parte di quel governo. Quando questo governo è caduto, io ho detto a casa a mia moglie, per me sì, è finito un incubo. Forse la stessa cosa è successa a lui. Ah, infatti, potrebbe essere. Per lui può essere finito un incubo. No, non lo vedi? Io lo vedo più sollevato un po', no? Lo spero proprio perché nell'ultimo periodo veramente era diventato un massacro, cioè una cosa, ogni giorno ci si alzava, ce n'era una nuova, ogni giorno c'era un problema nuovo, qualsiasi problema, anche di quelli che si possono risolvere tranquillamente, diventavano problemi planetari, per cui insomma per me è stata la fine di un incubo e per Berlusconi certamente comunque è stata la fine di un disagio, questo è sicuro. Questo è sicuro, dunque oggi potrebbe anche essere più solido, io lo vedo proprio più libero anche di dire la sua su alcune cose. Certo che è più sereno, questo è sicuro. Più sereno, Ma sereno, tutti i processi che c'ha, sereno. Come? Con tutti i processi che ha, come fa a essere sereno? Comunque i processi, ma che vuoi? C'ha 38 udienze, ma non gli interessano i processi. 38 udienze, Parenzo. Ma Berlusconi ha avuto sino a 75.000 processi. Che gli importa? Che non c'è una persona al mondo che ha avuto, voglio dire. Cioè, noi siamo l'Italia, se tutto quello che è avvenuto fosse stato corretto, avrebbe comunicato al mondo che Berlusconi è una persona che il diavolo in confronto si mette a piangere perché non riesce ad affrontarlo. È ovvio che tutto questo è stato una forzatura, è talmente ovvio che ancora quelli come Parenzo che continuano a insistere che invece è stato tutto giusto, a questo punto sono poco credibili. Ma non ho detto che è giusto, ho detto che quando è stato assolto è stato assolto, quando è stato prescritto è stato prescritto. Ma non è solo così, ti fermi a questa cosa. Qui, Mi fermo al diritto. Ma uno che viene accusato di tutto, e che c'è sempre un'occasione per accusarlo di una cosa nuova, è un fatto normale oppure no? Ma nel 2013 che fa Berlusconi? L'avessero accusato di una cosa vera, si poteva dire Berlusconi è Presidente del Consiglio avendo questa macchia. No, il fatto che gliele abbiano volute trovare tutte le macchie di questo mondo, ovviamente comunque è diventato una cosa poco credibile. Perché è poco credibile? Perché non è ovviamente possibile che queste macchie le abbia tutte, e quindi la magistratura ha fatto un lavoro, secondo me, che non è convenuto nemmeno ai nemici di Berlusconi, perché alla fine questo tipo di accanimento ti solleva anche se hai avuto una colpa, io non so quale possa essere. A proposito, ho capito benissimo il suo ragionamento, mi dice che il signor Romano l'altro giorno, ti ricordi Parenzo, ha fatto un ragionamento da noi, qui alla Zanzara? Ah, sulle corna, certo. Ma straordinario, un po' scherzando, un po' scherzando, un po' no, però ci ha un po' marciato su questo, ha detto è meglio, ascolti bene, è meglio essere accusati di mafia, come è lui, perché almeno uno si può difendere che essere cornuti. Piuttosto che cornuti, perché uno dice cornuti, uno non si può difendere, perché quello è. Si sta a vedere se uno è accusato di mafia vero ed è cornuto vero, oppure se è accusato di mafia che non essendolo, oppure che se uno... No, adesso, in linea di massima, senza... Se è accusato di mafia si può difendere e basta. Se contemporaneamente c'ha pure una moglie che gli mette le corna, certo, magari si trova peggio. Io spero che per Romano non sia così, non lo so, non capisco cosa voglia dire. No, voglio dire, mentre uno accusato di mafia in realtà si può difendere, si può difendere, lui dice, lui dice, quello cornuto è, cioè, non lei può... Sa, lei sa che in Sicilia sì. il fatto di essere cornuto è considerato una colpa, non una vittima. Questo è uno che è un cornuto, nel senso che è così cretino da farsi mettere pure le corna. Vabbè, cretino, adesso non è che uno deve essere cretino da farsi mettere le corna. No, ma dico, in Sicilia il fatto che uno sia cornuto è considerato una colpa, non è una colpa della moglie. Ma anche lei lo considera così? Io non lo considero proprio. Cioè, se lei mettessero le corna una volta, si sente... spero che gli passi velocemente e che non vada via da casa, perché vorrei rimanere a stare con mia moglie. Va bene, va, si vada a vedere il Palermo che è ancora 0-0 dopo 7 minuti. Grazie. Un abbraccio forte e tanti auguri davvero a tutti. Sì, ciao. Grazie. Abbiamo chiuso, c'è ancora qualcosa. C'è. Gianluca da Bari, no? 30 secondi. Fatemi fare 30 secondi, Gianluca da Bari, dai. Buonasera, dottor Cruciani. Veloce. Sì, assumo oggi solo che dopo tutto quello che è successo e dall'esperienza dell'ultima legislatura continuiamo a considerare, o meglio, i politici più o meno grandi. Sì, ma lei deve andare veloce, Gianluca. Io che cosa le ho detto? Che deve andare veloce. Continuano a considerare... Niente, non c'è niente da fare. Non ce la fa. Ci sentiamo domani anche con Gianluca. Ciao. Ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, spread, bond e tutti che ci pigliano per il culo, se ti piace così, ma tieni questa roba qua, ti piace così, va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. La Zanzara.